Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. 800 24 00 24, vi do subito il contatto, così potete, se volete, cominciare a telefonare o a scrivere messaggi al 349 238 6666. Una domenica in cui abbiamo visto una partita di tennis pazzesca, di cui poi dopo parleremo, con il successo di Novak Djokovic agli Australian Open, e una domenica in cui stiamo vedendo una giornata di campionato che, pensate un po', rischia di essere addirittura favorevole per quanto riguarda naturalmente la corsa al terzo posto all'Udinese, che ieri si è inchinata a Torino ad una Juventus che sta mettendo un mattone sull'altro, costruendosi così una casa dello scudetto sempre più credibile, a mio parere. Anche perché oggi pomeriggio, per come stanno andando le cose, appunto, l'Inter sta perdendo a Lecce e la Roma ha agguantato il pareggio in casa con il Bologna, che era passato in vantaggio con Di Vaio. 0-0 tra Cesena e Atalanta. La Lazio sta vincendo 1-0 a Verona con il Chievo, gol di Hernanes al 21esimo. Il Genoa sta distruggendo un Napoli sempre più fragile dietro, nonostante la raccomandazione di ieri di Mazzarri. Grande gol di Palacio al 31esimo, quindi al 36esimo Gilardino nel suo primo gol in versione rosso-blu. Gilardino che fornisce poi l'assist a Palacio per il 3-0 al 25esimo della ripresa. Come detto, l'Inter è sotto di un gol, 1-0 a Lecce, al 40esimo ha segnato Giacomazzi. Grande pressione nerazzurra, ma il Lecce fa malissimo all'Inter in contropiede. C'è stato da pochi istanti il raddoppio del Palermo sul Novara, 2-0. Tra poco ce lo facciamo raccontare a Giovanni Capuano, nostro inviato al telefono di oggi, che è già in linea. Palermo in cui sta giocando una partita stellare Fabrizio Miccoli, ma d'altra parte è la conferma di quanto già visto settimana scorsa. Roma 1, Bologna 1, prima Di Vaio e poi Pjanic su punizione, ma c'è un altro gol in questo momento, allora ve lo diamo in diretta. Siamo alla mezz'ora della ripresa, Giovanni Capuano, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. L'autogol è di Marco Rossi del Cesena su un tiro cross di Schelotto, quindi Atalanta in vantaggio 1-0 a Cesena in una partita importantissima anche per il risultato che sta maturando a Lecce. Atalanta che segna la prima rete di questo 2012, anche se in realtà gliela fa tutta Marco Rossi, che in scivolata devia alle spalle di Antonioli un tiro cross di Schelotto assolutamente innocuo. Comunque Atalanta che già nel primo tempo aveva in alcune occasioni rischiato di andare in vantaggio, così come anche rischiato di andare sotto in una partita più divertente di quanto non dicesse lo 0-0 sin qui. Intanto c'è il pareggio dell'Inter con Milito annullato però per fuorigioco. Dicevo comunque Atalanta 1-0 in vantaggio a Cesena. Il gol di Budan l'hai visto? Io no. Il gol di Budan è praticamente la fotocopia dell'1-0, è andato via Miccoli, un suo assist delizioso d'esterno, un cross, colpo di testa di Budan in anticipo, questa volta sul primo palo, e rete del 2-0. Intanto da segnalare che anche in questo caso è corretta la chiamata dell'assistente del signor Banti a Lecce, così come lo era stato al sesto con un gol annullato a Cambiasso, sempre per fuorigioco. Anche in questo caso Milito si trovava al di là della linea dei difensori. Come sta giocando l'Inter secondo te? È un Inter che secondo me ha regalato i primi 20 minuti giocando sui ritmi di queste ultime settimane, cioè bassi. Poi ha accelerato per provare a segnare, ma si è esposto al contropiede del Lecce, che ha due giocatori rapidissimi, che l'Inter aveva sofferto anche a San Siro poco prima di Natale, e cioè Muriel e Cuadrado, proprio in una situazione di non copertura della difesa dei due centrali. È arrivato l'1-0 di Giacomazzi. Adesso l'Inter ci sta provando in una maniera assolutamente disordinata e tra l'altro rischiando anche in contropiede. Ti faccio una sola notazione: Ranieri ha scelto nel primo tempo di tornare al rombo con Sneijder, lasciando Alvarez in panchina. Forse ha ragione chi in questi mesi ha detto che arrivato a questo punto di logorio anche dei centrali difensivi, che non protetti fanno fatica, l'Inter forse può reggere con il 4-4-2 giocando in maniera prudente e non con un modulo diverso. Era accaduto qualcosa di simile, sì, anche in occasione dell'ultima sconfitta a San Siro contro l'Udinese. Dopo un primo tempo controllato, Ranieri aveva provato a vincerla passando al rombo e inserendo un trequartista dietro le due punte, e poi l'aveva persa in contropiede. Invece è un Napoli preoccupante quello che sto vedendo a Genova. Anche ieri Mazzarri ha richiamato i suoi all'attenzione alla fase difensiva, un Napoli che sta imbarcando acqua in maniera preoccupante anche in prospettiva Champions League, e credo anche in prospettiva a questo punto rincorsa all'Europa per l'anno prossimo. Il Genoa sta letteralmente passeggiando oggi. Sì, e secondo me ci sono anche due dati da considerare. Il primo è che il Genoa è la stessa squadra che non più tardi di una settimana fa a Palermo era stata assolutamente asfaltata, quindi è una squadra che di sicuro non è tra le più temibili, sì, di questo campionato. La seconda è che sta naufragando dietro Britos, che doveva essere il rinforzo difensivo di questa stagione. Mazzari era stato sfortunato ad averlo perso tutta la prima parte per infortunio, ora l'ha ritrovato. Oggi aveva provato con una serie di cambi con le seconde linee, perché stanno giocando Britos, De Maili, Zuniga, ha giocato Pandev al posto di Cavani, che poi è entrato nel corso di questo secondo tempo. Però l'impressione è che, al di là delle difficoltà di una stagione vissuta comunque con due obiettivi, e per il Napoli evidentemente si tratta di qualcosa di proibitivo, questa squadra continui a non avere delle seconde linee, sì, all'altezza della squadra titolare. Lani, naturalmente stai collegato, pronto a intervenire se cambieranno i risultati. Abbiamo da poco superato la mezz'ora della ripresa, naturalmente. Io saluto e ringrazio Jacopo Lo Monaco, commentatore di Eurosport, quello che ne resta dopo aver raccontato per 6 ore un match incredibile, cioè la finale degli Australian Open. Ciao Jacopo. Ciao, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Ti è rimasta un po' di voce per raccontarci questa partita? Sì, vero, ben allenato dall'intero torneo, perché comunque il commento è sempre più o meno di quella durata. Certo, non ti aspetti mai che una partita sola possa durare così tanto. Sì, è stata una partita di un'intensità emotiva, ma anche tecnica, se vogliamo, mostruosa, no? Con Djokovic che ripeto il punteggio finale, cioè Djokovic che vince gli Australian Open al quinto set, l'andamento dei parziali 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5, ed è stato incredibile veder giocare quell'ultimo set a quei livelli da due fuori classe assoluti. Sì, il match è cresciuto da un punto di vista dello spettacolo, da un punto di vista tecnico, con il passare delle ore. Tutti i set tranne il terzo, nel quale Djokovic è stato semplicemente fantastico, perché è finito 6-2 perché Djokovic ha servito e risposto come meglio non aveva fatto nell'intero torneo, e ogni set è durato più di un'ora. Una partita davvero piuttosto incredibile. Sono riusciti entrambi ad andare oltre, ma notevolmente, la soglia della fatica, la soglia anche del dolore fisico, perché c'erano alcuni scambi che erano dolorosi, sembrava un Messi fucilato, non di tennis. Sì, sì, è vero, ma questo è accaduto anche nell'ultimo set. Per Nadal siamo alla, se non ricordo male, 7ª sconfitta consecutiva in finale, certamente alla 3ª sconfitta consecutiva contro Djokovic nella finale di uno slam. A questo punto io credo che possa diventare ossessione, o quasi, no? Ti dirò, esce molto meglio da questa partita, e lo si è capito anche dalle sue parole subito dopo, durante la cerimonia, rispetto alle finali di Wimbledon e di New York, perché lì non aveva avuto occasioni. Oggi, nel momento di difficoltà maggiore, ovvero il 4-3, 0-40 nel quarto, ha tirato fuori il meglio di sé, è riuscito a salvarsi, ha portato il match al quinto. A quel punto era lui il favorito, e a quel punto doveva vincerla, semplicemente perché ha sbagliato quel rovescio lungolinea che lo portava 4-2, 40-15. Il game era finito. Se mette quel rovescio, il game è finito. Poi bisogna sempre chiudere le partite, ovviamente, 5-2 al quinto, ricordiamoci quello che ha fatto Djokovic con Federer nella semifinale di New York. Però quel rovescio stanotte se lo sogna domani notte, e per almeno 3 settimane. Però ripeto, ho visto dei progressi da un punto di vista tattico, sì, da un punto di vista tecnico, che secondo me gli devono dare speranza. Una partita questa, che se fra 4 mesi viene replicata nella finale Roland Garros eventualmente, io non credo che debba entrare in campo già sconfitto. Secondo me gli dà più speranze questa partita, certo, nonostante certo Djokovic non abbia giocato per l'intero arco del match come ha giocato l'anno scorso, perché bisogna dire anche questo, che lui per due set, quando accelerava in lungolinea, di solito mette la palla negli ultimi 30 centimetri di campo, la metteva a 1 metro, e se cambi in lungolinea e non la metti così vicina, è ovvio che poi vai in difficoltà nello scambio. Un'ultima cosa, mentre il Napoli sta provando a riaprire la partita di Genova, e tra poco Giovanni Capuano ci racconta come, Jacopo Lo Monaco, gli ultimi 3 match indimenticabili o giù di lì a questi Australian Open, cioè le 2 semifinali e la finale di oggi sono pagine di storia, o quasi, esagero? Non mi ricordo uno slam maschile che si sia concluso con 3 partite di questo livello negli ultimi, sì, non so, 10 anni. perché si sono giocate tutte, tra l'altro, in pochissimi punti. Sì, sì, sì. Grazie Jacopo, buon riposo a questo punto. Grazie a Jacopo Lo Monaco. Dunque, vi abbiamo raccontato la vittoria di Novak Djokovic. Adesso proviamo a raccontarvi cosa succede a Genova, dove stavamo cantando "Ma non mi pento e non torno indietro", il De Profundis di un Napoli estremamente fragile. Dall'altra parte c'è un Genoa che non è il massimo della solidità, e lo stava dicendo poco fa Giovanni Capuano. Cosa è successo negli ultimi 4 minuti, Giovanni? È successo che nell'arco di 60 secondi il Napoli ha segnato per due volte, nella prima con un cross dalla destra di Maggio. I due centrali, Granquist e Moretti, si sono completamente dimenticati Cavani all'altezza dell'area piccola, colpo di testa 3-1, palla dentro, Genoa che prova un'azione d'attacco, perde il pallone sulla tre quarti del Genoa, lancio in profondità per Lavezzi, Genoa schierato come se si fosse disposto per un assalto nei minuti finali, invece stava vincendo 3-1, contropiede con 40 metri di campo per Lavezzi, e gol del 3-2. Tra l'altro Marino aveva appena fatto tre sostituzioni, togliendo di fatto molti dei giocatori sin qui protagonisti, a partire da Biondini e Sculli, forse nella convinzione di aver vinto questa partita, e ora si è consegnato a 7 minuti più recupero di assoluta sofferenza, con il Napoli che a questo punto ci crede, è costantemente in attacco per cercare il gol del 3-3. Tra l'altro Napoli non sarebbe nuovo nell'era Mazzarri a delle clamorose rimonte o a partite ribaltate proprio nei minuti finali. Sì, vabbè che si torna in campo mercoledì, però questo mi sembra, adesso vediamo come va a finire, mi sembra un errore da matita rossa, quantomeno di Marino, che potrebbe diventare errore da matita blu chiarissimo se il Napoli dovesse pareggiare questa partita ampiamente persa. Ricordo i parziali, dunque, mentre siamo al 35esimo di gioco sui vari campi, che sono questi: l'Atalanta conduce 1-0 a Cesena, autorete di Marco Rossi al 31esimo della ripresa, la Lazio sempre in vantaggio 1-0 a Verona con il Chievo, il gol di Hernanes in mischia su deviazione da sottomisura di un tiro di Rocchi appunto nel primo tempo. Di Genoa-Napoli vi stiamo raccontando, l'Inter sempre sotto 1-0 a Lecce, gol di Giacomazzi al 40esimo, ricordo il gol annullato giustamente a Milito per fuorigioco al 26esimo della ripresa, Palermo 2-0, doppietta di Budan ma nel segno di Fabrizio Miccoli, e sempre 1-1 tra Roma e Bologna con i gol di Di Vaio e Pjanic. Saluto e ringrazio Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Buonasera, direttore. Buon pomeriggio. Dammi subito un commento su questa giornata in divenire, in cui la Juventus, dicevo prima, sta, ma più dal punto di vista della classifica, dal punto di vista della credibilità, aggiungendo mattoni importanti su una casa tricolore. No, la Juventus più passano le giornate, più diventa veramente la grande favorita di questo campionato, perché a parte la serie di risultati utili impressionanti, l'unica squadra ancora imbattuta in questo campionato. Ieri ha vinto una partita che non era assolutamente facile per le condizioni ambientali, perché l'Udinese comunque è andata a Torino per giocarsela nonostante le assenze, ha trovato i gol, la doppietta di Matri, e comunque quindi che si è rinforzato come cannoniere della squadra. Io credo che la Juve sia veramente una candidata da tenere d'occhio per il Milan, perché non perde un colpo, e soprattutto si arriverà nei mesi caldi, che sono poi i più freddi dell'anno, sì, cioè quello di febbraio, in cui il Milan avrà anche la Champions League e la Juventus potrà pensare soltanto al campionato e magari a quel doppio confronto con il Milan di Coppa Italia. Mi puzza sempre più di decisivo questo mese di febbraio-marzo per gli equilibri della corsa scudetto. Direttore, in questo weekend abbiamo visto due grandi imprese, una abbiamo appena finito di raccontarla, una finale degli Australian Open, come era perfino difficile immaginare. Qualcosa da brividi, anche perché avendo assistito a due semifinali comunque tiratissime, poi immaginarsi un'altra finale da 6 ore, quasi da 6 ore, da 5 ore 53, dopo gli sforzi di ieri, dell'altro ieri, di Djokovic e di Nadal, è stato qualcosa di straordinario, anche perché è stato un livello di gioco veramente, sì, veramente incredibile. Non ho mai visto in vita mia una partita di tennis così fisica, cioè così, no, dura, sembrava un match di pugilato, onestamente, soprattutto nel punto fino al quinto set si tiravano delle sberle veramente impressionanti, è stata una cosa di un livello altissimo. Ti chiedo un attimo di pazienza, abbiamo il traffico, poi vorrei approfondire altri due temi. Una è un'impresa che ci ha reso felici, cioè quella della ragazza da pallanuoto, e l'altra è un'intervista che invece insomma, mi è piaciuta fino a un certo punto, cioè quella di Cristiano Doni sulle pagine Gazzetta dello Sport, apparsa ieri. Nessun gol nel periodo non collegato, poi torniamo a raccontarvi tutto. Intanto ringrazio d'attesa Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, con cui mi piacerebbe commentare il risultato delle ragazze della pallanuoto, che arriva a 6 mesi alle Olimpiadi. C'è ancora un'Olimpiade paradossalmente da conquistare per queste ragazze nel preolimpico, però cominciamo ad avere segnali incoraggianti dei nostri sport di squadra, che sono quelli che hanno, lo sai meglio di me, direttore, fallito nelle ultime edizioni olimpiche, sono saliti sul banco degli imputati. Diciamo che ci mancheranno i due sport di squadra principi, cioè il calcio e il basket, che non si sono qualificati e non potranno più qualificarsi, però per il resto, dalla pallavolo e dalla pallanuoto, che si deve ancora qualificare, poi contiamo anche le squadre della scherma, insomma credo che ci possa essere la solita miniera a cui andare a tingere per recuperare qualche medaglia. Le ragazze della pallanuoto contro una Grecia che era data per favoritissima, hanno disputato una finale perfetta, purtroppo è andata male dal giorno prima nella semifinale ai ragazzi, che però insomma sono i campioni del mondo in carica, quindi la pallanuoto è sicuramente di altissimo livello, come ieri, in questa domenica rosa del nostro sport, anche Carolina Costa si è confermata sul trono del ghiaccio europeo, comunque un risultato importante per lei, che non in Europa ma in altri grandi appuntamenti spesso scivolava al momento decisivo, invece in Europa dimostra di essere al di sopra di ogni paura. Tanto oggi i ragazzi invece a pallanuoto hanno perso 12-9 con l'Ungheria alla finale per il bronzo. Direttore, mi dai una tua valutazione dell'intervista di Doni, perché a me è piaciuto poco il discorso di Doni, mi è sembrato un dire le cose a metà. Io ti dico, andava fatta perché era una grande opportunità, credo. Sicuro. Che tutti i giornali l'hanno inseguita, perché bisognava capire che cosa voleva raccontare Doni. Poi ti rimane un po' l'amaro in bocca, perché è vero, io credo che Doni non abbia raccontato a noi ma anche agli inquirenti tutto quello che sa. Ci sono un po' troppi buchi neri nel suo rileggere le vicende che lo hanno coinvolto, insomma, che ci sia per lui si sia sentito parte in causa, si racconti di essere stato parte in causa soltanto in una partita, poi vada addirittura a ripescare una partita prescritta come quella di 12 anni fa, insomma, credo che lasci troppi buchi neri. Doni, sai, purtroppo è un personaggio dal doppio volto, perché lui dice l'ho fatto, è vero, ma l'ho fatto solo per il bene dell'Atalanta, perché stavo male dopo la retrocessione, mi sono piegato a logiche perverse ma non per mio tornaconto, non mi pare abbia menzionato tutto questo pasticcio di scommesse in cui è invischiato, e ci sono delle amicizie poco chiare. Bravo. Di cui non parla. Lui è comunque l'uomo che magari al raduno dell'Atalanta piange con la mano sul cuore, incontra poi i bambini dell'Atalanta e gli dice: sono orgoglioso di raccontarvi cosa vuol dire vestire la maglia dell'Atalanta. Poi il giorno dopo magari combina una partita, insomma. Era sicuramente una luce, un esempio per Bergamo per quello che sta venendo fuori in questi 6 mesi, anzi di più. Credo che lui sia diventi veramente una macchia nera. Però l'importante, io credo, non è che ci siano giocatori come Doni che adesso si pentano, l'importante è che in Italia ci siano tanti Farina, cioè tanti giocatori che quando gli arriva la proposta di ingannare o di truccare una partita, certo, alzino la voce e lo denunciano, perché denunciarlo dopo, magari perché cerchi comunque di riguadagnarti un po' di favore da parte dei tuoi vecchi tifosi, oppure anche come è capitato con Masiello, ben vengano i pentiti nel calcio, certo, anche perché servono comunque per combattere le scommesse, però insomma quando vai a raccontare certe cose perché sai che entro 2 giorni potresti essere arrestato, esatto, o perché cerchi di salvarti un finale di carriera, comunque qualche dubbio ti rimane. Certo, ne abbiamo bisogno anche di questo, però molto meglio avere tanti Farina piuttosto che tanti Masiello, insomma. Grazie direttore, buon grazie lavoro. A voi, buon grazie. Pomeriggio, grazie davvero. Grazie a Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Io torno alla cronaca, perché c'è la Lazio che mette in ghiaccio la partita, il Napoli invece che 5 minuti di recupero concessi, 2 e mezzo già trascorsi in questo finale, prova a raddrizzare una gara che onestamente non merita di pareggiare, lasciatemelo dire. Giovanni Capuano, partiamo da Verona. Partiamo da Verona, dove ha raddoppiato la Lazio con Klose, che ha recuperato palla a una 30ina di metri dalla porta da un errore di Cesar, poi scatto a bruciare il centrale del Chievo, tocco di sinistro, palla dentro per il 2-0 dopo l'1-0 di Hernanes. Napoli che è andato vicinissimo al 3-3 con una conclusione dal limite di Zemaili, respinta con i pugni chiusi da Frey, Genoa che sta cercando di tenere il Napoli lontano dalla propria area di rigore. Intanto c'è anche il 3-0 ancora di Klose per la Lazio, quindi 44esimo 3-0 della Lazio, da segnalare che si interrompe una lunga imbattibilità casalinga del Chievo, non prendeva gol da quasi 400 minuti prima di questa gara contro la Lazio, ne ha presi 3 tutti insieme in questo pomeriggio. Il gol di Klose, un diagonale di destro dal limite dell'area di rigore, qualche responsabilità certamente da parte di Sorrentino, ma in un momento in cui la partita è abbondantemente chiusa. Notizie sull'Inter? L'Inter ha rischiato di prendere il raddoppio in contropiede, è entrato Zarate, sta giocando in questo momento a 3 punte perché è uscito Obi, non riesce a creare delle occasioni davanti, ci sono tanti palloni buttati nell'area di rigore del Lecce su cui Benassi sta facendo buona guardia, è una squadra certamente nell'ultima mezz'ora stanca, anche perché il campo di Lecce è molto pesante, sta piovendo, piove da questa mattina. Ha la sensazione che stia pagando l'Inter la rincorsa, che in questa settimana, attenzione. Pazzini, che è andato davvero a un passo dal pareggio con un colpo di testa sul primo palo, un miracolo di Benassi che già nel primo tempo era stato decisivo in un paio di occasioni, è stato però l'ennesimo cross dalla tre quarti, questo dell'Inter sfruttato da Pazzini con uno stacco in anticipo. Adesso c'è un contropiede del Lecce, 4-2, Lecce che però ha sbagliato e quindi deve rallentare, è ancora al limite dell'area di rigore con la paratona di Giulio Cesare, siamo proprio sullo scadere del 90esimo, c'è un calcio d'angolo per il Lecce, Lecce vicinissimo al gol del 2-0 con Di Michele, pochi istanti dopo che Pazzini è andato a un passo dal pareggio. Ci sarà un recupero lungo, 4 minuti. 4 minuti, hai la sensazione, Giovanni, che l'Inter stia pagando la rincorsa in questa settimana? Coppa Italia e campionato, hai la sensazione di un Inter che insomma forse ha bisogno di non ti dico di recuperare perché non se lo può permettere di recuperare energie, però hai la sensazione di un Inter che sta pagando qualcosa? Io ho la sensazione, Carlo, che tutti, non tutti in realtà, ma diciamo molti, si fossero lasciati illudere dalla vittoria rotondissima contro il Parma, che in realtà era stato assolutamente impresentabile. Il problema dell'Inter di quest'anno è che può giocare e può essere competitiva quando i ritmi sono bassi, è una squadra che fa fatica a cambiare passo, è una squadra che evidentemente adesso è stanca, anche perché nell'asse centrale fondamentale di metà campo, formato da Cambiasso e Zanetti, è sostanzialmente una squadra che non ha dei ricambi, oggi ha giocato Obi, c'è in panchina Poli, però una squadra che avrebbe bisogno di molto sangue fresco in mezzo al campo e quindi sta pagando fisicamente questo, così come lo stava pagando qualche settimana fa. Poi se le partite nascono bene e in qualche modo le consentono di giocare sotto ritmo, è una squadra che riesce a proteggersi dietro e a rimanere ovviamente altamente competitiva perché ha dei colpi che tanti altri non hanno, ma quando le partite non nascono bene fatica. Guarda che anche l'Inter contro la Lazio nell'ultima di San Siro era stata una squadra in realtà premiata in quel caso dalla buona sorte sotto forma di arbitraggio che non si era arresa e quindi certamente in ogni caso aveva meritato di costruirsi la chance di rientrare in partita, ma era una squadra che dal punto di vista del dinamismo aveva sofferto e pagato tantissimo. Ultimi secondi di Roma-Bologna, sta per scadere, anzi è scaduto in realtà il recupero concesso in questo caso dall'arbitro Guida. Una Roma che vedevo Luis Enrique squadra la testa, una Roma pure, forse può valere anche in questo caso il discorso fatto sull'Inter, no? Una Roma che reduce da una lunghissima rincorsa oggi si è un po' affievolita contro il Bologna, pagando tantissimo, pagando anche in questo caso secondo me una fase difensiva rivedibile. Juan in questo momento non so quanto sia proponibile, oggi ha fatto un sacco di errori compreso quello che ha spalancato la porta a Di Vaio. Certamente non grandi segnali dalla Roma, grandi segnali invece se questa è la concorrenza per l'Udinese che pure ieri ha perso a Torino ma è caduto in piedi. Ah, sicuramente la giornata di oggi per l'Udinese è davvero una giornata fondamentale, è vero che la Lazio vince e ha vinto, in questo momento si trova a 2 punti dall'Udinese, però è anche vero che si avvia alla conclusione il mese terribile dell'Udinese, quello senza Samoa, senza Benatia, senza i giocatori impegnati nella Coppa d'Africa e soprattutto inizia, tanto per restare all'Inter ad esempio, a questo punto un ciclo complicatissimo nelle prossime 2 trasferte, per l'Inter ci sono l'Olimpico contro la Roma e il San Paolo contro il Napoli, quindi è del tutto evidente che da qui in poi inizia un nuovo campionato e io credo che la sconfitta di oggi di Lecce abbia chiarito definitivamente anche a quelli che si erano illusi che l'Inter non aveva nessuna possibilità di rientrare in un eventuale sprint scudetto, ma doveva continuare tenere come obiettivo la zona Champions League, e che probabilmente la serie di vittorie ha forse lasciato l'impressione, io credo a Moratti per primo, i dirigenti dell'Inter, che fosse scontato poter completare questa rincorsa, mentre invece sarà un'impresa arrivare terzi in questo campionato, perché comunque l'Inter rimane una squadra che ha delle lacune e anche questo pomeriggio le sta mostrando tutte in maniera impietosa, di là che poi sarebbe probabilmente un episodio per vincerlo o pareggiarla. Certamente, però il senso di questa giornata è che quelli che si illudevano che l'Inter fosse già rientrata al giro scudetto appunto hanno coltivato l'illusione, finisce in questo momento a Lecce. Lecce batte Inter 1-0. Grazie Giovanni Capuano, ci sentiamo dopo il giornale radio e cominciamo a parlare insieme. 800 24 00 24, numero verde. Dunque, denunzio da Mestre, primo ascoltatore di oggi. 800 24 00 24, mi pare siano i temi siano molti, mi pare che tutti quelli che vedevano l'Inter già in piena corsa scudetto siano stati serviti oggi di barba e capelli a Lecce. L'Inter ha perso infatti 1-0, il gol l'ha segnato Giacomazzi al 40° del primo tempo, stop e girata da centroarea, ricordo un gol giustamente annullato a Milito al 26° della ripresa, ma un Inter in netto calo rispetto alle ultime esibizioni. Non so cosa succederà sul mercato, non so se Thiago Motta partirà, se verrà inserita linfa nuova di cui l'Inter a centrocampo avrebbe terribilmente bisogno, e quella di oggi non è che una conferma. Poi l'Atalanta ha vinto 1-0 a Cesena, autorete di Marco Rossi su un tiro cross di Schelotto dalla destra al 31° della ripresa. La Lazio ha vinto 3-0 a Verona con il Chievo dopo il gol di Hernanes al 21° del primo tempo, in mischia a deviare un tiro di Rocchi. Nel finale Klose ha arrotondato il risultato al 43° con un bellissimo esterno destro sull'uscita del portiere, al 44° con un diagonale dal limite dell'area. Il Genoa ha battuto 3-2 il Napoli, magnifico gol di Palacio, il più bello della giornata, probabilmente al 31° del primo tempo con un destro al volo da 20 metri che si è infilato all'incrocio dei pali. Poi abbiamo visto il primo gol in rosso-blu di Gilardino, 36° del primo tempo, colpo di testa su cross dalla sinistra di Sculli, un altro rientrante in maglia rosso-blu come sapete. 25° il gol del 3-0 di Palacio, lì Marino ha praticamente svuotato la panchina bruciandosi tre cambi e pensando probabilmente al turno infrasettimanale di mercoledì. Non so se abbia fatto bene, alla fine si può essere, però ha sofferto come un dannato nel finale, perché al 36° ha segnato Cavani di testa, poi al 37° Lavezzi, poi Napoli ha premuto alla ricerca di un pareggio che comunque sarebbe stato immeritato, io credo, anzi ne sono certo, per un Napoli che ha confermato tutti i suoi recenti difetti difensivi. Il Palermo con doppietta di Budan, 41° del primo tempo e 27° della ripresa, ha battuto il Novara, ma nel segno di Fabrizio Miccoli, che ha fatto l'inferno oggi come domenica scorsa. Tra l'altro anche oggi assist d'esterno meraviglioso, esterno destro a pennellare sulla testa di Budan nel gol dell'1-0 al 41° del primo tempo, un palo colpito dallo stesso Miccoli, che ha fatto un sacco di giocate da circoletto rosso, come direbbe Rino Tommasi. 27° il raddoppio di Igor Budan e Palermo che vince ancora in casa. La Roma non va oltre l'1-1 in casa con il Bologna, vale un discorso parallelo a quello dell'Inter, è una Roma che dopo una lunga rincorsa alle posizioni che contano della classifica oggi ha provato a tirare il fiato, forse è stata costretta dai suoi limiti a tirare il fiato, tra l'altro ha dovuto anche rincorrere il Bologna che era passato al 12° del primo tempo con un sinistro di Divaio in diagonale dopo un buco clamoroso di Juan, che ha giocato una pessima partita. Meravigliosa la punizione di Pjanic al 17° sempre della ripresa, e Pjanic è uno che avrebbe potuto probabilmente segnarne anche di più di queste punizioni, ma a Roma vale la legge Totti, quindi se c'è un calcio piazzato prima si pensa al capitano. Questa sera gioca il Milan per provare a rispondere alla Juventus, Milan che riceverà il Cagliari alle 20:45 nel posticipo. Classifica Juventus 44, Milan 40 e stasera poi vediamo e facciamo i conti. Udinese 38, Lazio 36, Inter 35 che scivola di nuovo a meno 9 dalla capolista Juventus. Roma 31, Napoli 29, Palermo Genoa 27, Fiorentina 25, Fiorentina che ha vinto 2-1 nell'anticipo dell'ora di pranzo con il Siena nel derby toscano. Chievo e Parma 24, Atalanta, Cagliari e Catania 23 punti, Bologna 21, Siena 19, Lecce 16, Cesena 15, Novara 12. Questa la classifica, questo è il primo ascoltatore che annunzio, già annunciato prima. Buonasera. Sì, buonasera signor Genta. Niente, io volevo sottoporle un quesito, insomma, sul famoso tormentone Tevez, che praticamente io penso di essere quasi sicuro che Tevez viene al Villa, anche perché secondo me Maxi Lopez è stato usato col famoso piano A dal Villa, ma sicuramente penso che, conoscendo Galliani, avrà sicuramente un piano B pronto per lunedì e martedì. Ma se ne riparo d'estate, non so, io credo. Questo punto mi sembra abbastanza finita la questione, per fortuna, perché in tutta onestà ne avevamo abbastanza le tasche piene di questo tormentone. Sì, ma anche un po' stucchevole, se vogliamo. Io credo che per il momento sia finita, cioè per il momento Tevez penso rimarrà nella sua dorata prigione inglese. E poi quest'estate potrebbero essere fatti tra Milan e Manchester City un sacco di discorsi nei quali potrebbero entrare Balotelli, potrebbe entrare Ibrahimovic, potrebbe entrare Pato, e potrebbe, oltre allo stesso Tevez, e poi chissà, almeno questi sono gli scenari che è possibile, con un po' di fantasia, forse neanche tanta, immaginare. Però penso che al momento la questione Tevez sia chiusa, almeno questo ci hanno detto in maniera praticamente ufficiale venerdì, no? Con quest'ultima puntata e questo ultimo tentativo in extremis, e poi la presentazione di Maxi Lopez, che ha vissuto, che anche questa è stata una vicenda surreale, quella di Maxi Lopez imprigionato in albergo per una settimana in attesa di notizie da via Turati. Quindi credo che al momento si vada così. Credo anche che Tevez al Milan ci arriverà, e magari ne hanno anche parlato, hanno anche già raggiunto accordo, magari stanno anche parlando e avranno i prossimi mesi per parlare di altri giocatori, Nunzio. Davide dalla Spezia, buonasera. Buonasera. Dunque, io da juventino volevo fare un commento, qui quasi una battuta: si è allargato lo spread con l'Inter. Sì, con l'Inter, a livelli preoccupanti, eh. Ma è la squadra di riferimento per noi juventini adesso, a livello di odi calcistici, certo, sì, non ma per non... il campionato. Appunto, per il campionato però è un'altra storia. Io credo che, insomma, il parametro sia quello con la maglia rossonera, no? Il parametro, certo. Quindi con l'Inter, a livello Nainggolan come siamo messi? Questo penso che sia l'acquisto, secondo me, ideale per questa Juve da corsa. Sì, lo penso anch'io, anche se non mi dispiaceva per la Juventus l'idea Guarin, cioè un giocatore diverso, un giocatore, non so se un vice Pirlo, comunque un giocatore in grado di parlare la stessa lingua di Pirlo a centrocampo. Nainggolan è un giocatore che la Juventus potrebbe comunque fare comodo nella rotazione di centrocampo. È stato tra l'altro sponsorizzato ovviamente da Madri ieri, dopo la sua doppietta. Continuo a vedere una Juventus che ci crede ogni giornata di più alla possibilità di vincere questo scudetto. Io credo che anche dal punto di vista degli equilibri emotivi, la vittoria di ieri con l'Udinese è stata estremamente importante, e continua ad essere iniezione di autostima in attesa di un mese che sarà quello di due mesi, saranno quelli di febbraio e marzo, che si stanno aprendo con il ritorno delle coppe, con tutte queste variabili. Ecco, lì capiremo tutto, quasi, ho l'impressione, nella corsa a scudetto. Aspettiamo la risposta del Milan questa sera, che non mi pare così scontata, perché ho visto il Cagliari nelle ultime due giornate giocare ad eccellenti livelli, soprattutto fisici. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto qui. Poi cominciamo anche a sentire attraverso i microfoni di Sky un po' di voci dagli spogliatoi della Serie A, oltre alle vostre voci e ai vostri messaggi al 349 238 6666. A dopo. Messaggi, 349 238 6666. Vi ricordo anche i nostri contatti Facebook e Twitter, sempre operativi. Messaggi come questo: da quando Mourinho è andato in rotta con Real e il suo nome è ricominciato a girare ad Appiano, l'Inter ha subito due sconfitte di fila, cosa ne pensa? Penso che è cronaca questa, caro Giorgio, che scrive il messaggio. Saluto e ringrazio invece Paolo Condò, prestigioso inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Paolo. Ciao Carlo, buona domenica a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Il messaggio realistico, da quando Mourinho è andato in rotta con Real, eccetera eccetera eccetera. No. Sì, no, non è realistico. No, non è realistico. Non è realistico che torni all'Inter, semplicemente. Non, non, non è in discussione, che lui vada via da Madrid alla fine di questa stagione lo reputo molto probabile. Perché anche se alla fine sarà vincente, perché perlomeno la Liga la porterà a casa, credo che comunque si tratti di un matrimonio fra due che non sono fatti l'uno per l'altro, sì. Il Real Madrid e Mourinho, e quindi credo che la cosa si concluderà. E però a quanto mi risulta l'Inghilterra è assolutamente la sua prossima destinazione. È la sua prossima destinazione. Paolo, sentiamo insieme cosa dice Ranieri, scurissimo. Se ne sono curioso anch'io. Allora sentiamo insieme con i microfoni di Sky. Avete trovato Benassi contro l'Inter. Abbiamo trovato un portiere in gran vena, poi si è gasato sempre di più e noi ci siamo innervositi sempre di più. Sapevamo che loro avrebbero giocato in contropiede poi nel momento più bello nostro ci hanno fatto gol, nel secondo tempo si sono ancora di più chiusi, si hanno serrato tutti gli spazi e non siamo riusciti. Quando ci siamo riusciti, il portiere, il palo, i due gol annullati giustamente, per cui Paolo, sapevamo che questa era una partita difficile. Sì, beh, lo sappiamo. L'avete già rivisto, Sì, l'abbiamo già rivisto. Per cui quando nasce una partita così devi riuscire a restare calmo, invece non ci siamo riusciti, non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché hanno dato veramente tutto. Sapevamo, perché anche l'anno scorso l'Inter aveva sofferto 1-1 qua, il Milan nel primo tempo aveva preso 3 gol, per cui sapevamo quello che ci aspettava, purtroppo non siamo riusciti a venirne a capo. Andrea Paventi. Non voglio dire, l'avevo detto perché è una frase che detesto, però io non ho mai visto l'Inter davvero tornata in corsa per lo scudetto. Mi sembra che il dato di oggi stia a confermare questo, Paolo. Ma guarda, io il campionato dell'Inter e questa sua rimonta l'ho interpretata un po' come una gara dei 400 metri di atletica leggera. Cioè l'Inter era indietro, ha approfittato del decalage, era come se lei corresse nella corsia più interna, le altre nelle corsie più esterne, però fatalmente finito il decalage si sta ritrovando indietro. Mi spiego, l'Inter le ha sparate tutte, facendo probabilmente anche una preparazione leggera e brillante, come si dice per essere brillante subito, le ha sparate tutte per riuscire a riportarsi sotto. E c'era anche riuscita, però è chiaro che quando tu hai perso così tanti punti all'inizio di stagione, esattamente come era successo l'anno scorso, quando sei riuscito a riavvicinarti sei al gancio, sei in apnea, non respiri più e l'incidente è sempre dietro l'angolo. Questa è la grande fregatura delle rimonte, che mi pare che nella storia del calcio italiano sia riuscita soltanto quella famosa dell'Inter ormai 40 anni fa, ecco, mentre poi a partire dalla Roma, la famosa rimonta culminata poi nel disastroso Roma-Lecce, anche lì sembrava che la Roma fosse riuscita a mettere la testa avanti alla Juventus, ma nel finale era crollata perché non stava più in piedi. Allora, vedi Paolo, con realismo io ho sempre detto che l'obiettivo dell'Inter, il traguardo dell'Inter debba essere quel terzo posto che dista ancora tre lunghezze, no? Perché tutto il resto mi sembra abbastanza fantasia. Assolutamente sì, il terzo posto deve essere il traguardo, devono essere contenti se riusciranno a raggiungerlo, perché comunque non sarà semplice, perché sia l'Udinese che la Lazio, devo dire che oggi si è rilanciata. E poi io continuo a pensare, io continuo a credere abbastanza nella Roma, anche se oggi ha avuto una parziale battuta d'arresto, contenderanno quel terzo posto all'Inter. C'è un discorso complicato da fare, ma secondo me molto realistico, che lo devono fare Moratti e i suoi collaboratori. Tante volte quando una stagione va male o inizia male perché la tua rosa non è più ai massimi livelli, tante volte conviene che la stagione vada male fino in fondo per non avere poi rimpianti o retropensieri al momento di varare la rivoluzione. Sicuro. Io credo che l'Inter sia una squadra che credo che Moratti debba lavorare in profondità sulla rosa dell'Inter per rilanciarla ai massimi livelli. La deve ringiovanire, la deve rinfrescare, deve comprare un paio di giovani già sicuri e non da svezzare come Alvarez, come Coutinho e così. Con Ranieri, che... secondo te? Con Ranieri, come si è detto in settimana, come lo stesso Paolillo ha detto in settimana, ma quale Mourinho? Non vedo questo ritorno, dice Paolillo. Ranieri si sta guadagnando sul campo la conferma, perché io non capisco quali siano le idee, onestamente, le strategie dell'Inter. Ma allora, detto che Mourinho non è mai stata una possibilità, è detto che Guardiola molto probabilmente sta per firmare un altro rinnovo annuale con il Barcellona, sinceramente non vedo in giro degli allenatori per i quali fare le follie e mandare via Ranieri, che comunque tutto sommato ha fatto un buon lavoro. Io credo che si possa reimpostare il futuro con lui, ricordando sempre che Ranieri è il quarto allenatore in 2 anni dopo Mourinho, certo. E quindi occorre mettere uno stop. Diciamo che è stato preso Gasperini senza sapere minimamente che calcio giocava, vista la conclusione. Adesso Ranieri sai che calcio gioca, più o meno mi pare che ti vada bene, e adesso bisognerebbe mettere Ranieri con il mercato nelle condizioni di avere nuovamente una squadra competitiva, soprattutto una squadra rinfrescata, perché è vero che Lecce è un campo terribile, il Milan era dato 3-0 sotto alla fine del primo tempo. Sì. Però poi aveva trovato la freschezza e la forza per rimontare. L'Inter, se tu vedi, c'è un'azione simbolo, no? Quella di Muriel che supera Samuel nel primo tempo e poi tira su Julio César, e sembrano un film in bianco e nero, un film a colori. Questo è impressionante, e con tutto che Samuel è stato giustamente celebrato come l'uomo migliore nel derby, perché lo è stato, è stato decisivo nel derby, però i giocatori di una certa età e di una certa stazza fisica a un certo punto riescono a fare magari una grande partita, ma le tre seguenti poi la fanno male. 800 24 00 24, numero verde. Intanto siamo tutti qui a capire dove può arrivare la Juventus, caro Paolo Condò. Juventus che si dice, ma un altro ostacolo, poi un altro passo, e poi vediamo cosa succede con l'Udinese, e poi vediamo cosa succede a febbraio, un passo dietro l'altro. La sensazione è che quella casa sia credibile, cioè quella casa tricolore che Conte sta costruendo. C'è gente che mi scrive tutto merito di Conte, perché la differenza rispetto alla Juventus degli anni passati è nel carattere, eccetera, eccetera, eccetera. Non so quanto sia il merito di Conte in questa costruzione. Vedo però una squadra che ogni domenica ci crede sempre un po' di più. Allora, dove può arrivare la Juventus? Sicuramente lo scudetto. La Juventus, mi pare già certificato che la Juventus arriverà in uno dei primi due posti, non so in quale dei due. Il Milan resta un avversario molto, molto forte, forse mantiene il 51% di possibilità di vincere il campionato, però comunque la Juventus arriverà o seconda o prima, e questo già mi pare un grosso passo in avanti rispetto alle precedenti stagioni. Poi io non credo mai nel calcio, come nella vita peraltro, non credo mai che esista sempre soltanto una ragione perché si verifichino delle cose. Credo sempre alle concause, poi ce ne sono di più importanti, di meno importanti. Conte è stato certamente una causa importante di questo miglioramento della Juventus, ma credo che sia stato molto facilitato nel suo lavoro di istruzione, di apprendimento suo e di apprendimento della squadra dei suoi metodi, dal fatto che la Juventus quest'anno non facesse le coppe. Sì. E quindi lui ha potuto lavorare settimane su settimane, dal lunedì al venerdì, ha potuto lavorare sugli schemi, sulla tattica, sulla preparazione, così, e questo si vede chiarissimamente in campo. Il gol di Lichtsteiner, quello il primo meraviglioso. Quello meraviglioso su quel lancio di Pirlo, non quest'ultima partita, quella precedente, lo vede chiaramente che si tratta di un movimento provato e riprovato in allenamento, che lo possono fare a occhi chiusi. Le squadre che giocano le coppe e che quindi praticamente ogni 3 giorni vanno in campo, devi pensare che sempre il giorno prima della partita tu devi fare un allenamento leggero per mantenere la squadra brillante, quindi non puoi lavorare sulla tattica, devi fare soltanto un po' di lavoro atletico leggero. Il giorno dopo devi fare invece il riposo, i massaggi. In mezzo c'è stato il giorno della partita, quelli sono 3 giorni di non lavoro. Sì. E la differenza è enorme. Poi io credo che lo stadio abbia portato dei punti alla Juventus, perché questo stadio nuovo, particolarmente caldo, senza la pista di atletica, motivante, leggevo che è stato valutato dai 6 ai 10 punti, ovviamente non esiste una certezza matematica, ma lo stadio ha inciso. Sì, non è stata benzina emotiva, ma è stata benzina emotiva indubbiamente per la Juventus. Certo, questo, e soprattutto questo benzina emotiva, in un momento la Juventus veniva da grandissime delusioni. E quindi da una parte era un po' sfiduciata la gente della Juventus, però ha avuto Conte, una sua vecchia bandiera in panchina, e uno stadio nuovo nel quale esaltarsi. Mm. E questo ha colmato immediatamente quella sfiducia che c'era. Certo. Poi sono cominciati a arrivare subito i risultati e quelli certo, non è mai andata in difficoltà. La vecchia magia del calcio. Sì, non è mai andata in difficoltà in realtà la Juventus in questa, certo, in questa certo stagione. Ma io ti dico che la Juventus ad agosto era chiaramente ancora in fase di costruzione e ci sono poi le casualità, no? Che nella vita le casualità tante volte contano. E la prima partita di campionato era Udinese-Juventus contro la squadra più in forma sì, naturalmente. Forte, ma perché più in forma? Perché aveva dovuto fare i preliminari di Champions League. Quindi l'Udinese era una pallottola in quel momento e la Juventus ancora una casa in costruzione. Ecco, quella prima giornata ti salta per lo sciopero. E certo, schivi la pallottola e vai di... Schivi la pallottola in quel modo, che poi te la giochi a Natale quando le cose Bravissimo. Sono completamente cambiate. Bravissimo. Se tu invece parti col campionato e parti perdendo a Udine, cosa che ci poteva stare, sì. Già tutto diventa diverso. E già l'aria diventa più pesante. Già l'aria certo, diventa... E quindi ci sono quei piccoli storia. Segnali del destino Sicuro. Che ti dicono che questo potrebbe essere l'anno buono. Paolo, ti ringrazio davvero. Alla prossima. Grazie a te. Grazie. Ciao Paolo a Condò. Grazie. Ciao. Mazzarri con Sky. Un Genova molto concentrato, più veemente di noi, fisicamente più... Ecco, questo è l'episodio, avete protestato molto per l'anticipo di Moretti, a vostro giudizio falloso, dal quale poi è partita l'azione del terzo gol. Nell'anticipo, Maggio stava anticipando, lui ha visto che stava andando sul pallone, si è spostato, quindi un fallo, era un fallo da fischiare secondo me, ma lasciamo perdere, purtroppo noi la partita l'abbiamo sbagliata ai primi 20 minuti, dove il Genova era più in palla, noi ci abbiamo messo 30 minuti a carburare, purtroppo abbiamo pagato, in quei momenti alcune squadre riescono a non prendere gol, far passare il momento difficile, noi non ci riusciamo, è venuta una partita in salita, la potevamo anche pareggiare, per quello abbiamo fatto il secondo tempo e forse l'avremmo anche meritato. La nota positiva è sicuramente il carattere, perché questa è una squadra che non molla mai. Ecco, forse l'aspetto che il Genoa non si è messo a specchio, ma ha fatto il suo calcio con la difesa a 4, non si è adattata al vostro modulo di gioco e comunque nel primo tempo ha prodotto gioco, ha prodotto due gol, è un aspetto che ti preoccupa? Era un 4 un po' strano, ma comunque lasciamo stare ora la tattica. Noi abbiamo fatto una buona gara da lasciando al Genova, anche per meriti del Genova stesso, che gli è stato più veemente di lui, più aggressivo, arrivavano prima su tutti i palloni, per 20 minuti, 25 ci hanno messo in difficoltà, noi probabilmente in diversi elementi non siamo entrati col piglio giusto in campo, probabilmente il freddo, non lo so come spiegarlo, può darsi anche il fatto di aver giocato 3 giorni fa con l'Inter. Fatto sta che siamo entrati non concentrati come al solito, abbiamo, come ho detto prima, a parte l'Eurogol di Palacio, che è appunto un episodio di un grande giocatore, ha preso l'incrocio e ha condizionato un po', ha gasato loro, ci siamo un pochino così impauriti noi e ci hanno fatto subito il secondo. Da lì poi abbiamo giocato bene, abbiamo fatto una gran partita e purtroppo non siamo stati capaci di recuperare. Dario. Questo è Mazzarri, giustamente segnala Giorgio De Luca che stava ascoltando questa intervista di Mazzarri in redazione. Se lasciamo stare l'arbitro, lasciamo stare la tattica, cosa resta? Resta un Napoli che è andato sotto di 2 fischi prima di cominciare a giocare, evidenziando, sottolineando ulteriormente il difetto vero e preoccupante in questo momento della squadra di Mazzarri, cioè una difesa che non funziona nella maniera più assoluta. Quindi non si può tanto lasciare stare l'aspetto tattico in questo momento nel Napoli, a parer mio. Davide da Bologna, buonasera. 800 24 00 24 per la vostra voce. Davide. Salve, senta, io appunto agganciandomi al discorso che facevate adesso volevo insomma domandarmi, ma com'è possibile che Bigon, Mazzarri non si rendano conto che al momento i difensori del Napoli, Cannavaro, Aronica e Campagnaro, diciamo i titolari, sono dei insomma discreti difensori, ma non sono assolutamente dei difensori che possono giocare l'intero campionato, sì, e garantire sicurezza per l'intero campionato. Beh, l'anno scorso l'hanno fatto, però è la stessa difesa che l'anno scorso ha portato Napoli in Champions League. Io credo che sia, guardi, posso fare un parallelo, Davide, non so se è d'accordo, poi glielo chiedo, posso fare un parallelo sì, con la situazione della Juventus, nel senso che tante volte si è detto, beh, la Juventus, una delle pecche della Juventus è una difesa non esattamente euromondiale, una difesa che avrebbe bisogno di interpreti di maggiore personalità, talento, spessore, però è una Juventus che di gol ne becca pochissimi, ma perché è l'intera squadra che funziona a protezione della difesa, cosa che accadeva per il Napoli l'anno scorso, cosa che non accade più. Però in effetti l'anno scorso, come forse un po' quest'anno per la Juve, si ha la sensazione che fosse un po' l'anno in cui girava tutto bene. Mm. Io dico che anche l'anno scorso, nonostante andasse molto bene, si percepiva che il reparto difensivo era sicuramente quello più in difficoltà. Sì, sì. Comunque, diciamo, su questo discorso anche volevo chiedere, secondo lei, se effettivamente è verosimile a questo punto pensare che per il Napoli convenga concentrarsi sulla Coppa Italia e tentare di battere il Siena in semifinale per poter arrivare alla Coppa UEFA, perché verosimilmente non entrerà. Ma al di là della Coppa UEFA può essere un obiettivo credibile e realistico questo della Coppa Italia? È evidente che si aspettano le grandi emozioni della Champions League, ma in maniera legittima. È chiaro che la classifica del Napoli, considerato il suo valore, mancano dei punti pagati anche sulla strada dell'Europa. È altrettanto evidente che la chance come quella di una semifinale di questo tipo, di Coppa Italia, possibilità di giocare comunque una finale di Coppa Italia, credo possa essere l'obiettivo, debba essere l'obiettivo più realistico nella testa di Mazzarri e dei suoi. Grazie Davide. Giuseppe De Luca è convinto che i risultati di oggi abbiano un po' depresso interisti e napoletani? Non so se sia così, provate a dirmelo. 800 24 00 24, numero verde certamente, non gli juventini che viaggiano col vento in poppa aspettando sul balcone al piano più alto il Milan di questa sera. Diciamo che alla Juve vanno tutte troppo, anche troppo bene, perché il vento non cambi mai, vedi clamoroso gol sbagliato da Totò ieri sull'1-1, scrive Paolo da Prato. Oppure c'è chi scrive: ma chi l'ha detto che la Juve avrebbe perso se avesse affrontato l'Udinese la prima giornata, come ha detto prima Paolo Condò? Nessuno l'ha detto, nessuno può dirlo, non abbiamo la riprova. Certo è che l'Udinese alla prima giornata, e poi abbiamo visto quello che ha fatto e che sta facendo l'Udinese dal pronti via di questo campionato, per una Juve in costruzione sarebbe stato qualcosa di estremamente pericoloso. Un Udinese che usciva piena di benzina dal turno e di rabbia dal turno preliminare di Champions League. Averla evitata la prima giornata è stato un piccolo colpo di fortuna, sono d'accordissimo con Paolo Condò. Marco da Padova in linea, Serse Cosme al microfono di Sky. Loro avevo scelto semplicemente di acquistare dei giocatori, ho definito di sana ignoranza, ignoranza calcistica, però qualcuno che avesse il carattere, quel qualcosa che negli episodi poteva fare la differenza, insomma, voglio dire. E credo che già oggi sia Blasi che Miglionico hanno dimostrato, hanno messo in campo quel qualcosa che molto probabilmente ci è mancato in tutte queste partite. Quindi qualche altro ignorante in maniera positiva, non dico me lo aspetto, perché poi se diventiamo troppo ignoranti poi perdiamo l'educazione, questo non va bene. Serse Cosmi questo. Marco, Padova, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Io sono un tifoso interista. E... depresso o no? Ma è realista, per cui nemmeno tanto depresso, sì, perché purtroppo un po' di fortuna magari, ma avevo letto in anticipo questa situazione ancora prima delle due sconfitte recenti, nel senso che nonostante il filotto positivo e nonostante la qualità di quello che sta facendo Ranieri, lei l'ha detto tante volte, mettendo, diciamo, in modo razionale in campo, certo, il terzino al posto del terzino, ma e sicuro, l'attaccante al posto dell'attaccante. Ma Marco, Ranieri è bravissimo a gestire questo viale del tramonto dell'Inter, mi sembra evidente, no? Esatto, esatto. Il problema secondo me sta proprio qui. Stiamo cercando di portare avanti un'idea che comunque ci porterà a peggiorare la situazione fin tanto che non si ripartirà con un nuovo progetto. Questo non è più il progetto, non è più è un'idea di portare a fine stagione la squadra in modo dignitoso, lo stiamo per molti versi anche facendo, però quello che mi preoccupa è il futuro da tifoso. Senso che a centrocampo ci serve qualcuno che sia in grado di portare avanti un'idea. Al momento ce la possiamo giocare, possiamo essere felici di aver vinto un derby, ma a fine stagione... Per quello, Marco, io dico che il realismo, al di là del tifo, deve portare a dire che l'obiettivo dell'Inter deve essere quella quota 38, tanto per dire che su cui oggi sta l'Udinese, cioè quel terzo posto. Sentir dire di un Inter 7 vittorie, bravissimo Ranieri, come ho detto, l'allenatore probabilmente migliore a gestire una situazione di questo tipo, cioè di una squadra che, ha ragione lei, si cerca di portare alla fine dell'anno, per ripartire poi da dove non si sa, non si capisce bene, ed è questo secondo me il punto fondamentale. Con realismo l'obiettivo dell'Inter deve essere quel terzo posto, anche perché una stagione fuori dall'Europa che conta l'Inter non se la può permettere. Ora non so se Thiago Motta partirà, non so se ne arriveranno degli altri, so però che a prescindere da questi micromovimenti del mercato di gennaio, questi micromovimenti non spostano nulla in quello che è il vero discorso, cioè il futuro di questo club, no Marco? Sono d'accordissimo con lei, perché e volevo sottolineare proprio questo, mi ha anticipato, quello che ha permesso il salto di qualità dell'Inter, al di là degli allenatori come Mancini e Mourinho, che sicuramente hanno dato moltissimo a livello di qualità, di immaginarsi una squadra di alto livello, ma quello che ha fatto la differenza è quei due o tre acquisti che hanno spostato in alto la qualità dell'Inter. Sì. Sono stati, a mio modo di vedere, sono stati senza dubbio Sneijder, dubbio il Milito intollerante. Marco, all'interno di un programma preciso, no? All'interno di un programma preciso che in questo momento non si vede, cioè arrivasse uno Sneijder o un Milito adesso, non so se dico una bestialità, però arrivasse adesso comunque un giocatore importante, arrivasse adesso Tevez, non credo cambierebbe la sostanza. Giro l'interrogativo ad Andrea Sorrentini, inviato di Repubblica, a Lecce. Ciao Andrea. Buonasera a tutti, buonasera, ciao. Dicevo che l'ascoltatore dice Sneijder e Milito comunque sono quelli che hanno cambiato l'Inter quando arrivarono. Questo accadde all'interno di un piano preciso, di un progetto preciso. Dovesse arrivare per ipotesi Tevez all'Inter in questa stagione, non so cosa potrebbe cambiare in prospettiva futura. Aggiungi certamente un giocatore importante, pesante, però non è quello che ti fa dire: beh, l'Inter dall'essere una squadra sul viale del tramonto torna ad essere una squadra in grado di vincere qualcosa in Italia e in Europa. Anche perché i giocatori di cui ha bisogno questa Inter non sono in attacco, a mio avviso, ma magari un po' più indietro, soprattutto nei ruoli di centrocampisti intermedi, dove manca un po' di energia. E tra l'altro se arrivasse un acquisto importante in attacco non so cosa accadrebbe, ma già il fatto di dover inserire questo Sneijder in questa fase della stagione per l'Inter si sta rivelando un grossissimo problema. Anche Ranieri è un problema, adesso nel dopopartita ha detto che con Sneijder la squadra non pressava abbastanza bene, allora lui lo ha sostituito nell'intervallo per mettere Alvarez, perché l'Inter con il 4-4-2 dell'ultimo periodo si ritrova a meraviglia, con il rombo di oggi no. Io sinceramente, ma sai, poi questi sono allenatori professionisti da tanti anni, quindi magari hanno una visione delle cose più completa, ma a me l'Inter del primo tempo oggi con Sneijder e con rombo è piaciuta. Quella del secondo tempo niente affatto, perché non ha combinato proprio più nulla, a parte un paio di occasioni, ma sempre su calci piazzati. Quindi credo che oggi l'inserimento di Sneijder dal primo minuto si fosse rivelato una scelta azzeccata. Nel secondo tempo, con Alvarez al suo posto, gli è crollato di colpo. E questa è una squadra che senza ritmo non può andare da nessuna parte, sì, quindi è un problema. Forse le ha levato un po' di certezze, questo, o no? Ma sì, perché poi, tra l'altro, dovendo rimontare un gol di svantaggio, secondo me l'Inter avrebbe dovuto rimanere in campo con Sneijder, che dava vivacità, saltava l'uomo e aveva messo anche due o tre palloni interessanti dentro, e poteva fare qualcosa di buono. Invece con Alvarez, ripeto, il ritmo è crollato, il Lecce ha occupato meglio il campo, si è difeso davanti alla propria area, anche con un discreto ordine, poi c'è stato Benussi che ha fatto un'altra parata meravigliosa. Però ecco, è un Inter che senza il ritmo di Snyder, il suo zampettare per il campo diventa troppo prevedibile, soprattutto se deve attaccare una difesa schierata e non deve difendersi e contrattaccare come ha fatto spesso. Andrea, ti ringrazio, buon lavoro. A voi, ciao. Grazie, grazie Andrea Sorrentini, inviato di Repubblica. Dunque, ha parlato poco fa un sorridente Enrico Preziosi, ci siamo persi le sue parole, non ci perderemo invece tra un istante quelli di Eddie Reia ai microfoni di Sky. 800 24 00 24 per intervenire e dire la vostra da ora fino alle 19. Messaggi 349 238 6666. Prima di Reia, Raffaele da Latina. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, buonasera. Io sono un tifoso interista. Niente, volevo semplicemente... Depresso o no? No, non sono depresso per niente, neanche sono lei. Molto benissimo, ottimista. Benissimo. Non penso che oggi abbiamo giocato male, penso che siamo stati sfortunati e che abbiamo trovato di fronte un ottimo portiere. Per quanto riguarda il resto, confido moltissimo in quello che ha detto Ranieri oggi, subito dopo la partita. Chiaramente il rombo ancora, i giocatori ancora non sono pronti totalmente per il rombo e dovranno insistere, ma ci ritroveremo secondo lui con un campione in più, il vero acquisto sarà questo Snyder. Io credo fondamentale. Dall'essere il giocatore più importante, caro Raffaele, o comunque una delle superstar dell'Inter del triplete, Snyder è diventato improvvisamente un problema, è diventato un problema per Gasperini, è diventato un problema di mercato, è diventato un giocatore... sempre sull'orlo della partenza, è diventato un giocatore perennemente infortunato. Adesso è un giocatore, lo sta dicendo anche lei e l'ha detto anche Ranieri, è diventato un giocatore difficile da inserire. Credo che insomma con fatica Ranieri sia riuscito a ricostruire, ad assemblare un Inter non bella, certamente, perché non lo è mai stata bella. Non voglio tornare su diatribe estetiche, insomma su questioni estetiche, però un Inter comunque efficace. Con grande fatica è riuscito a costruire questo 4-4-2 molto bloccato, molto semplice, molto scolastico se vogliamo. Adesso torna Snyder e cosa succede? Bisogna reinventarsi qualcosa e allora la squadra perde il passo. Sarà un caso? Io credo di no. Reia con Sky? Sta parlando o non sta parlando? Nel malcomune. Reia con Matteo Petrucci. Matteo. Ah no? Sì, Francesco Cosatti. Vittoria importante per il morale, anche perché era la sconfitta dopo contro l'Inter, la sconfitta in Coppa Italia. Quanto serviva una vittoria così, insomma, roboante, anche un 3-0 in trasferta? Direi per i ragazzi, per quello che hanno sofferto, diciamo, in queste due partite a Milano, sia col Milan in Coppa Italia, anche con l'Inter. Abbiamo fatto delle buone prestazioni, soprattutto con l'Inter, che meritavamo il miglior risultato. E oggi abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo suddiviso equamente le energie, siamo stati bravi tatticamente, non abbiamo concesso niente al Chievo. E avevo un po' di timore soprattutto sulle situazioni di pallone nativo, che loro sono molto bravi su calci d'angolo, punizioni, e lì siamo stati molto attenti. E niente, direi un'ottima prestazione, ma soprattutto risultato, perché venivamo da 3 sconfitte consecutive fuori casa, vincere qui a Chievo che non è mai facile. E mi auguro solo di poter recuperare un po' di energie, che adesso arriva al Milan fra 2 giorni, e pertanto avremo solo 2 giorni per recuperare. Spero che le regie si recuperino in questo periodo. Questo è di Reia. Io saluto e ringrazio invece Monica Colombo, Corriere della Sera. Ciao Monica, grazie. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Mi vengono i brividi perché su Twitter rimbalza questa notizia secondo cui si potrebbe riaprire la storia Milan-Tevez. E sinceramente, domani, non quest'estate. Sì, esatto, per la tranquillità delle nostre famiglie sarebbe meglio di no, però pare che le speranze ci sono ancora, insomma. I contatti fra Adriano Galliani e Al Mubarak, che è il presidente del Manchester City, ovvero proprio lo stesso dirigente che nell'intervista al quotidiano degli Emirati Arabi settimana scorsa aveva criticato pesantemente il dirigente milanista, ora ha, come dire, riaperto la trattativa. Quindi i contatti sono continui, penso che nemmeno al City faccia comodo tenere un giocatore in rottura con l'allenatore e dall'ingaggio pesantissimo. Certo. Tra l'altro ricordiamoci che qualora rientrasse Tevez agli ordini di Roberto Mancini, qualora City dovesse vincere la Premier, gli dovrebbe corrispondere, come dire, ricchi premi, altri bonus, soldi, quindi, sì. Piove, quindi sarebbe... grano sul bagnato, mia cara, piove esatto. Grano sul bagnato, mai, mai sulle nostre teste. Senti Monica, mi ha colpito invece quella frase di Galliani che, chiudendo la trattativa con City, l'altro giorno aveva detto: beh, non lo prendiamo adesso Tevez, sarà il nostro obiettivo estivo, però quantomeno ci siamo lasciati in buoni rapporti con il City. Io ho subito immaginato via vai di voli aerei in estate tra Milano e Manchester, su cui potevano salire non solo Tevez ma Ibrahimovic, Balotelli, magari Pato e chissà chi altri. Mi sbaglio? Ho troppa fantasia? No, assolutamente, anche perché Balotelli difficilmente resterà in Inghilterra per ulteriori stagioni, visto che è stato il suo medesimo procuratore, cioè Mino Raiola, lunedì scorso, sì, al Gran Galà dell'AIC, a prospettare questa ipotesi. E siccome Raiola è abilissimo nell'aprire dei tormentoni di mercato, credo che stia solo preparando il terreno ad uno spostamento del suo assistito. Sì. Per quel che riguarda Ibrahimovic non penso, perché credo che Ibrahimovic veramente abbia deciso di chiudere la carriera a livello di grandi club al Milan. Infatti anche proprio l'altra sera, parlando con Raiola, lui diceva: io non escludo che magari prima di smettere lui possa andare a giocare a Malmo, però o in una piccola squadra dove ha cominciato, ma a livello di grande calcio, anche lo stesso Raiola diceva a malincuore, devo ammettere che resterà qua. Certo, perché per lui gira meno il tassametro, diciamo. Come no, continua a girare il tassametro ad ogni spostamento. Ma siamo sicuri che questa sera per il Milan il Cagliari sia un ostacolo banale, passando dai brividi che può riservarci nei prossimi giorni il calciomercato, su questo solito refrain al campo? Siamo sicuri che sia banale la sfida con il Cagliari? Perché è importantissimo. Assolutamente no, perché il Milan comunque arriva in una situazione fisica non ottimale, perché ha tantissimi infortunati, ha un centrocampo praticamente decimato e anche in attacco le alternative non sono molte. No. Infatti credo che alla fine Allegri, contravvenendo a quello che è il suo credo, metterà Seedorf trequartista, che praticamente ormai è un ruolo che non regala più all'olandese da parecchio tempo. Sì. E poi ricordiamoci quello che già era successo nella settimana del derby, in cui si era parlato solo di Tevez, della cessione di Pato, del contratto di Allegri. Qui sembrava che come dire, la partita con l'Inter fosse solo una mera formalità. Sì, certo. Tanto era diciamo sulla carta. Quasi un fastidio, la differenza di valori tecnici, poi si sono visti i risultati. Quindi guai sottovalutare il Cagliari. Grazie Monica, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Buona serata. A Monica Colombo, Corriere della Sera. Gilardino tornato al gol dopo un'eternità con Sky. Le partite, incredibile. Non... Sei innamorato, c'è niente da fare. Ti do lo stipendio per gli assist e per i gol adesso. No, bravo, che ce l'ha in contratto? Sì. Faccio il procuratore di Gilardino. No. Di Vaio, senti, volevo chiederti una cosa. Intanto se ci spiegavi la maglietta, perché mi sa proprio che ti va di dire che cos'era. Sì, no? Per, e poi se ti aspettavi che Pioli era così bravo. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Ciao. La maglietta è dedicata a un ragazzo che è malato di SLA, Sergio, che lo conosco da più di un anno. E sono andato a trovarlo per il compleanno in ospedale e mi ha dato questa maglia e avevo promesso che la mettevo e che la prima volta che avrei fatto gol l'avrei fatta vedere, perché è giusto che sia così, per dargli un po' di sostegno, perché sta soffrendo parecchio lui e la sua famiglia. E dunque mi sembrava giusto. E per quanto riguarda Pioli, onestamente no, è molto più bravo di quello che mi aspettassi. Così Marco Di Vaio, amici di Sergio, stava scritto su quella t-shirt mostrata dopo il gol alla Roma. Questo è il vostro momento, questa è la vostra ora, perché dovete far sentire la vostra voce. 800 24 00 24, numero verde. È arrivato Filippo Aureggi in regia, sempre Giorgio De Luca in redazione per questa seconda ora insieme una seconda ora in cui insomma vale la pena di parlare dei temi che questo weekend di campionato ci ha lasciato, ci sta lasciando sul tappeto, perché stasera vediamo cosa combina il Milan con il Cagliari in una partita che, continuo a dirlo, vedo tutt'altro che banale e scontata per i rossoneri, vuoi per le difficoltà del Milan, che onestamente al capitolo centrocampisti ha anche una sfiga che fa provincia, perché Merkel, che viene richiamato d'urgenza, si fa male pure lui, Milan in difficoltà di organico, con ogni probabilità con Seedorf riciclato trequartista, con una soluzione che ad Allegri non piace nemmeno troppo. Dunque un Milan in emergenza contro un Cagliari che, l'hanno detto le ultime giornate, le ultime partite, sta davvero molto bene. È una settimana difficile, con un turno infrasettimanale da giocare, è un momento decisivo secondo me del campionato, e in questo momento decisivo onestamente io vedo brillare, non so voi, ma vedo brillare soltanto la Juventus e un'altra squadra di cui tra poco ci parla un ascoltatore, e cioè la Lazio. 800 24 00 24, numero verde, in questa domenica in cui l'Inter e gli interisti sono tolti di dosso, credo, un sacco di illusioni, con una delusione, quella di Lecce, illusione di tornare nel giro scudetto, illusione di essere tornati competitivi, illusione di avere di nuovo una squadra su cui era possibile immaginare un futuro. Mi sembra che oggi gli umori siano diversi, leggo un messaggio, uno per tutti, di Giacomo: Snyder è un problema perché vuole andare via dall'Inter, non ha motivazioni, non ha voglia di giocare in questa squadra, non ci mette la gamba, non lotta, via subito insieme a Thiago Motta, Julio Cesar, Samuel, Lucio, Cambiasso, Zanetti, Milito e Chivu. Basta, Giacomo, bastano così? Un po' di ragione però l'ascoltatore ce l'ha, perché l'esperienza insegna come un giocatore da tempo al centro di tormentone di mercato quest'estate e poi di nuovo di sfuggita in questo mercato invernale, o comunque in prospettiva futura, un giocatore che a questo punto fa fatica, e la partita di oggi, le due partite della settimana dell'Inter, quella di Coppa Italia e quella di oggi, lo dimostrano, fa fatica a trovare una collocazione stabile nella squadra, ebbene non può essere sereno, non può che giocare come scrive il nostro ascoltatore, cioè col freno a mano tirato. Non dimentichiamo, reduce da un periodo di lungo degenza da cui non si può riprendere subito, però mi sembra che Snyder sia effettivamente un problema. 800 24 00 24, Luca, poi Antonio, poi Mimmo. Luca dalla provincia di Monza, buonasera. Pronto, buonasera gente. Dunque, torno un attimo sul discorso che lei ha appena finito di fare in merito all'Inter. Io sinceramente non mi ero mai illuso che, nonostante la serie di vittorie e il filotto, si potesse arrivare oltre questa posizione, perché per me la squadra resta da quinto, sesto posto, non di più. Quinto, sesto, nemmeno no, il terzo no. Posto dell'Udinese, che dista soltanto tre punti. Ma per un semplicissimo motivo, che se il nostro presidente purtroppo ci viene a dire, prima che fosse iniziata questa serie positiva, che avrebbe provveduto a fare dei ritocchi, e poi durante tutto l'arco del mese di gennaio ci sentiamo pioppare ogni giorno di calendario un giocatore diverso, per poi alla fine capire chiaramente che non verrà nessuno, io non so come si può avere la convinzione di dire entriamo tra le prime tre con Obi, Castagnos, Alvarez, Zarate. Sì. Cioè, Luca, non solo Obi, Castagnos, Alvarez, eccetera, quelli che lei sta dicendo, ma comunque con una squadra che sarà a fine ciclo, sarà sul viale del tramonto, sarà quello che vuole, però ha comunque degli interpreti che l'hanno portata dove lei sa, no? Quindi non tanto per... insomma, dobbiamo distinguere. È chiaro che se mi dicono l'Inter imposta futuro sui giocatori che lei ha menzionato, allora non vedo certamente un grande futuro. Se lei mi dice questa squadra da quinto o sesto posto, beh, io non esagererei con il pessimismo, fossi interista, cosa che non sono, perché il terzo posto dell'Udinese dopo la rimonta che è stata fatta, il terzo posto dell'Udinese mi sembra un obiettivo realistico, non facile ma realistico. Cioè, ma lei crede che lo sia nonostante il calendario offra trasferte tipo Roma, Torino con la Juve, Napoli, Udine? Io sinceramente non lo so, ma anche per un motivo molto semplice. ci vogliono purtroppo dei grandi giocatori per fare il salto di qualità. Evidentemente il non prenderli per un certo periodo di tempo, perché è stato venduto Balotelli, è stato venduto Eto'o, sono sicuro arrivati dei rimpiazzi non allo stesso livello, vuol dire che tra qualche mese Moratti si troverà a rifare quasi tutta la squadra. Sì, no? Certo, ma qui stiamo tornando a fare un discorso di futuro, che Moratti si debba pensare a rifare la squadra è indubbio, come non lo so, perché non è un dubbio che rimane nell'aria a partire dall'allenatore. Sarà ancora Ranieri? Credo di sì, può essere, probabilmente se lo ha anche meritato, ma sarà davvero lui? E se sarà davvero lui, quali giocatori gli verranno dati? Cioè, dove va l'Inter? È questo che io non riesco a capire, Luca. Sentiamo una battuta di Tesser, poi andiamo da Antonio a Frosinone. Tesser, allenatore del Novara. Devi sbilanciare un momentino in più e rischi qualcosa, che mi è scato un paio di contropiedi e... loro, c'è il rammarico, ripeto, nella prima mezz'ora soprattutto abbiamo fatto un'ottima partita e poi non chiudere. Poveretto Tesser, oggi è vero, ha giocato una partita di grande orgoglio su Novara, ma temo che nonostante i giocatori che sono arrivati continuano a essere attrezzato per questo palcoscenico. Antonio, buonasera. Antonio? Pronto? Buonasera, sono Antonio da Roma, non da Frosinone, sono allora, un tifoso della Lazio. Hanno scritto sbagliato sul display. Sono un vostro ammiratore come servizio di Radio 24. Perfetto. Volevo un attimino chiedere un'informazione per cortesia. Come mai c'è questa disparità tra squadre del nord e in questo programma parlate sempre di Inter, Juventus, Milan, di Lazio, Roma, Napoli, poche informazioni riceviamo. Questa è la prima domanda. La seconda, le rispondo subito, Antonio, perché parliamo di Lazio, visto che lei, ne abbiamo parlato prima in cronaca, però lo facciamo con grande piacere, visto che lei vuole parlare di Lazio. Se poi mi chiamano 10 ascoltatori che vogliono parlare di altre cose, io non so che posso parlare di quello. Comunque, al di là di questo, dica, vada con la seconda domanda. Benissimo, la Lazio riguardo a questo campionato può puntare al terzo posto con la rosa che si ritrova attualmente? Può puntare al terzo posto perché è una squadra seria con un allenatore serio, quindi la risposta in questi termini è sì. Poi non so quali ritocchi possono arrivare dal mercato, leggevo di questa pista onda sempre più calda, sarebbe un giocatore utile alla causa laziale. Io credo però che, non me ne voglia, però Udinese, Inter e Roma siano un po' più attrezzate rispetto, anzi nell'ordine, Inter, Udinese e Roma siano un po' più attrezzate per questa corsa verso il terzo posto che mi pare assolutamente aperta. Credo anch'io, come Paolo Condò prima, che la corsa per i primi due posti andrà così fino in fondo. Tra Juventus e Milan non so in quale ordine, sono molto curioso di scoprirlo. Credo che la Lazio sia a pieno titolo inserita e iscritta a questa corsa e sarà appassionante ed entusiasmante. Però torno a ripetere questo in virtù del fatto che è una squadra di grande buon senso, esattamente come il suo allenatore, anche troppo contestato. Non ha ragione, secondo me. Questo perché, per chiudere il discorso o per riaprirlo se volete, con sulla Lazio 800240024, credo che la Lazio sia una squadra di grande buon senso, di grande qualità anche, sia una squadra di molto equilibrio e con eccellenti interpreti in ogni reparto, da Marchetti, che è tornato ad essere uno dei migliori portieri del campionato, a Diaz, che è un grande difensore centrale, al di là del cazzotto rifilato a Van Bommel l'altra sera, ha un centrocampo solido e davanti a uno come Klose, che oggi ne ha messi altri due, ma è una certezza. Dunque è una squadra che ha equilibri precisi ed è per questo che io credo possa sfruttare le lacune e gli errori di chi ha qualcosa in più, come, ripeto, secondo me Inter, Roma e Udinese. Mimmo da Varese, buonasera. Buonasera signor Genta. Niente, volevo parlare dell'Inter. Sì. Sentivo prima, bene o male l'ascoltatore di prima mi ha anticipato. Per me gli errori di quest'anno, la prima cosa è la cessione di Eto'o, 37 gol l'anno scorso nell'anno solare, non credo se tutta la squadra dell'Inter riescono a fare 37 gol. La scelta dell'allenatore società da una parte, l'allenatore dall'altra Gasperini, e poi non ultimo Thiago Motta, il caso Thiago Motta, che arriva un pincopallina dall'estero, uno sceicco, un arabo. Beh, viene a prendere un giocatore. Mimmo, Thiago però, Motta ha fatto gol col pincopallina neanche tanto, eh. Cioè, il Paris Saint-Germain è un, io credo, sarà nei prossimi anni un interlocutore importante per chi vorrà fare calcio mercato a livello europeo. Dica. Niente, no, dicevo, Thiago Motta è un giocatore che ci ha fatto vincere col Chievo, sì, ha fatto il secondo gol con Cagliari, era il miglior, secondo me il miglior centrocampista che stava giocando, meglio di Zanetta e meglio di Cambiasso. Sì. Lo dobbiamo sostituire con Obi, oppure con Alvarez, oppure con Faraoni, con tutto rispetto di questi ragazzi, andiamo a Lecce, questi qua ti devono salvare. Col coltello in mezzo ai denti, cioè non sta gente qua. Poi Pazzini è, per me è un giocatore, lo considero il Gilardino, il Borriello, il Gilardino, Borriello della Serie A, un altro non mi viene a me. Questi giocatori pure Macri. Beh, insomma, ha citato quattro signori giocatori, quattro signori attaccanti, tutti nel giro della nazionale, quindi non mi sembra una diminuzio per Pazzini questa. Quanto a Thiago Motta, lei sa che, insomma, proprio in virtù anche della stagione che sta giocando, per la quale, tra parentesi, in chiave azzurra sono estremamente contento e fiducioso, ha attirato l'interesse, è un giocatore di livello internazionale, ha attirato l'interesse di un club che, ripeto, sarà nei prossimi anni un interlocutore per tutti quelli che vorranno fare mercato di livello su piano internazionale. Ebbene, questo mi sembra normale. Saluto e ringrazio una grande voce, peraltro interista, come Enrico Ruggeri. Salve, ciao a tutti. Ciao Enrico. Buonasera a tutti. Le canzoni dei testimoni. Le canzoni ai testimoni, sì. Dimmi qualcosa su questo. Prima che sentiamo Motta. È un album particolare, insomma, riuscire a fare qualcosa di particolare al 30° album è già una soddisfazione, perché è un album nel quale tutti i migliori esponenti della scena rock, della scena indipendente, della scena alternativa italiana hanno scelto una mia canzone a loro insindacabile giudizio, l'hanno riarrangiata, prodotta, quindi adeguata al loro suono, alla loro linea editoriale, e poi io sono tornato in scena per cantarla, quindi io sono solo il cantante che duetta con loro, quindi in canzoni che sono state scritte anche a 30 anni di distanza, canzoni molto diverse che evidenziano anche il fatto, insomma, che mi sembra una sorta di Oscar, se mi permetti. Sì, in genere sono i dischi che ti fanno da morto, quindi sono sono contento di essere in controtendenza e spero di rimanere. Per radio non si vede, sto facendo gestacci. Sì, no, anch'io non l'ho fatto, mentre lo dicevo, però sono i dischi tributo, insomma. Esatto, però questa volta ho il piacere di godermelo e di partecipare anche. Senti Enrico, invece sei un interista depresso come molti di quelli che telefonano oggi, anche se cercano di mascherare la depressione, ma no, io a scudetto non ci ho mai creduto che l'Inter fosse una rincorsa. Lo ero anche prima, cioè il mio giudizio non cambia. La partita che l'Inter ha perso con Lecce oggi è simile a quelle che ha vinto, con la differenza che altre volte la palla è entrata e questa volta no, quindi non ho gridato al miracolo sulle 7 vittorie, sono state 7 vittorie conseguite con il cuore, con l'esperienza, ma non certo con un'organizzazione di gioco, con i muscoli, con una squadra che si muove, che si smarca, che crea gioco. Quindi le altre volte è andata bene, questa volta no, non era pensabile che l'Inter potesse vincere tutte le partite, certo, esprimendo un gioco, insomma, non particolarmente fantasioso, un po' modesto, sì. Quindi l'Inter di oggi è questa, sono grandi campioni nella seconda fase della loro carriera, che hanno grande cuore, grande esperienza, corrono per quello che possono, sì. Però insomma ritmo del gioco è assolutamente lento. Ma ti pare normale che Snyder diventi un giocatore come Snyder diventi un problema? E beh, perché se non c'è un centrocampo in grado di coprire e di correre, lo diventa. Se ci fossero stati dei cursori dietro, ma bastava gente che è stata acquistata senza grandi sforzi ma solo con grande acume, sì. Bastava dietro un Nocerino in più, un Aquilani in più, un Maingolani in più, qualcuno che desse dinamismo al centrocampo e che ci permettesse di avere il lusso di un trequartista. L'interista come lo vivi il primato della Juve? Con dispiacere da tifoso, però è una squadra che è stata strutturata bene, sì. Hanno fatto tanti tentativi gli anni scorsi, non tutti riusciti, anzi pochi tentativi riusciti, adesso hanno un'organizzazione di gioco, sia la Juve che il Milan, hanno fatto delle buone campagne acquisti e hanno i lavori in corso, mentre l'Inter no, e quindi... Cioè, io l'anno scorso dicevo, ragazzi, attenzione che El Shaarawy è un giocatore promettente da prendere, che costa poco. Le campagne acquisti si fanno anche con nomi del genere, insomma, non serve il colpo da 20 milioni, che peraltro non c'è. Esatto, dimmi che allenatore vorresti, che un allenatore che vorresti e un giocatore che vorresti per la ricostruzione. Per la ricostruzione intanto vorrei Oriali. Sì. Non sei l'unico, non sei l'unico per cominciare. Sì. Un giocatore, un centrocampista di grande quantità, adesso dire Schweinsteiger non ha senso, però insomma uno così, un paio di centrocampisti buoni europei, non per niente, ma che non abbiano da andare via a Natale eccetera, perché poi se sei fortunato trovi Zanetti, trovi Maicon, ma se non sei fortunato trovi Adriano, dal punto di vista dell'allontanamento dalla base, no? Sì. Quindi possibilmente europei, di grande, che corrano, perché all'Inter mancano i polmoni. Sì, questo è, mi sembra piuttosto evidente. Allenatore avanti con Ranieri oppure secondo te lui è bravo a gestire questo Sunset Boulevard? Bravissimo. Per Ranieri, in questo, per il materiale umano che ha, sta facendo i miracoli. Quindi conferma. Ma sì, dipende, non è quello il punto, insomma, allenatori bravi ce ne sono, allenatori di grinta, eccetera, certo, cioè, si parla anche di Spalletti che è un ottimo allenatore, ma Ranieri va benissimo, ha fatto i miracoli con il gruppo che aveva, perché se non altro lo ha ricostituito psicologicamente dopo la confusione generata da Gasperini, no? Per cui quello che poteva fare lo ha fatto, se riuscirà a traghettarci a un terzo posto avrà fatto un miracolo. E invece per finire nel tuo futuro dopo le canzoni dei testimoni che cosa c'è? Certo, non il viale del tramonto come per l'Inter, come per questa Inter. No, spero di no, insomma. molti concerti, sì. Quindi ricominciare a fare concerti e portare... Hai già qualche un piano? Hai già una partita? Facciamo, il prossimo è stranamente a Tel Aviv, quindi una trasferta di Coppa, diciamo. Trasferta di Coppa, altro che. Esatto, dopodiché no, da aprile cominciamo a fare concerti... a divertirci un po' in Italia. Da aprire giù l'acceleratore e via, esatto. E via con Enrico Ruggeri. Grazie mille. Grazie a tutti. Un abbraccio, grazie Enrico Ruggeri. Ciao. Adesso, dopo una grande voce, altre voci, le vostre, che sono comunque grandissime pure, 800 24 00 24, numero verde. Franco da Imperia e poi Massimiliano da Bologna. Franco, buonasera. Buonasera. Niente, io mi riflettevo oggi il campionato del Napoli. Poi ricordiamo, compriamo tanti giocatori e poi facciamo una squadra, quelle dell'anno scorso, perché poi sono sempre quelli 11 dell'anno scorso. Che l'anno scorso funzionava bene, quest'anno un po' meno. Un po' meno in campionato, perché un turnover si fa quando vinci 2-0, poi ti metti in panchina Cavani e fai riposare i giocatori. Non si può partire in panchina come Maggio, Cavani... E diamo spazio a Britos, che mi sembrava un giocatore di serie C. Non lo è Franco, non è un giocatore, però è da recuperare, è chiaro, che è reduce dalle fortune lunghissime. Abbiamo due grandi pilastri, Fildenberg e l'altro con i capelli biondi, mettiamo dentro quelli, non un giocatore che non ha mai giocato una partita in questo campionato. Però da qualche parte, cioè, Britos è stato uno degli acquisti più importanti del Napoli, lei lo sa, si è fatto male subito, ha avuto un grave infortunio, è chiaro che è un giocatore guarito da reinserire, quindi da questo punto di vista non trovo grandi appunti da fare a Mazzarri. Piuttosto, Franco, è un'intera fase difensiva a non funzionare più. Prima facevo il paragone contrario, che è quello della Juventus, che ha una difesa da molti criticata, che però è la migliore del campionato, ma perché tutta la squadra a funzionare? Questo Napoli mi sembra che stia funzionando pochino, tutto insieme, non soltanto dal punto di vista difensivo. Quanto al turnover, insomma, siamo sempre lì. Il Napoli è una squadra molto particolare, una squadra classica, cioè fatta di 11 titolari e poi ci sono le riserve. A questi ritmi, a questi livelli, è evidente che tra Coppa Italia e poi campionato, e poi campionato di nuovo, e poi turno infrasettimanale, poi ricomincia la Champions League, è evidente che Mazzarri deve trovare delle risorse. Quindi il Napoli andrà dove lo porteranno i suoi panchinari, paradossalmente, no? Perché su quegli 11 titolari, se stanno bene, la squadra è competitiva. Poi quando si tratta di farli rifiatare com'è fisiologico, com'è necessario, ecco che arrivano partite come quella di oggi con il Genoa, che è la riprova di un momento comunque molto complicato per il Napoli. Napoli che comunque sta pagando anche un campionato, questa è un'opinione personale, però un campionato sottotono di una delle sue stelle come Mare Kamsic, che secondo me sta giocando a livelli di sufficienza molto stiracchiata, non di più. Sto riguardando immagini di Doni, mi sorprende che nessuno di voi sia intervenuto su questa intervista rilasciata da Doni a Gazzetta e Repubblica, di cui abbiamo parlato prima con Umberto Zappelloni, vice direttore della Rosa, e che ho trovato francamente ridicola, perché se uno decide di parlare lo deve fare, secondo me, a tutto tondo, cioè lo deve fare sul serio. Non mi può Doni, inchiodato da tutte le parti, venire a dire l'ho fatto sì, ma perché il calcio è malato, l'ho fatto solo per il bene dell'Atalanta. Ecco, questa intervista secondo me è francamente ridicola. Donne d'oro dello sport italiano non sono solo quelle delle piscine, ma anche quelle dei ghiacci. Allora la notizia è questa: tris d'oro per Arianna Fontana agli europei di short track in corso in Repubblica Ceca. La 21enne di Sondrio, dopo l'eliminazione nelle batterie dei 1000 metri, si è aggiudicata la vittoria nei 3000, riuscendo così a salire sul gradino più alto del podio in tre gare, 500, 1500 e 3000, oltre a chiudere in testa nella classifica generale. Grandissima la bionda Arianna Fontana. Noi torniamo invece su temi calcistici, credo. 800 24 00 24, numero verde, Massimiliano, già annunciato prima. Buonasera. Buonasera, signor Genta. Io sono uno dei superstiti della serata da frigorifero di ieri a Torino. Ne valeva la pena però, mi pare. Massimiliano, mi abbassi la radio intanto, che sennò sento il ritorno in cuffia. Sì, ne valeva la pena di pigliare un po' di freddo una volta tanto. Sì, beh, Bologna-Torino sono più di 5 ore d'andata e più di 6 ore di ritorno, però sì, ne è valsa la pena, perché poi in effetti non è la prima volta che vado in quello stadio, sembra davvero di andare al cinema a vedere un film, perché è proprio strutturato molto molto bene. E poi devo dire la verità, faccio complimenti, ma non da tifoso juventino, ma da ospite che va a casa di un'altra persona, perché in effetti secondo me se la partita durava 6 ore si poteva giocare per 6 ore, perché in effetti hanno un sistema di drenaggio, di riscaldamento di questo campo che rendeva la partita perfetta. Massimiliano, certo, si tratta di uno stadio nuovo e bellissimo. Il problema è che noi siamo abituati a dei letamai, è questo il problema. Non è tanto il fatto che è oggettivo che lo stadio della Juventus sia uno stadio moderno del 2012, sia uno stadio di questi tempi. Il fatto vero è che siamo abituati ai letamai, e quindi quando entriamo in una bellissima casa normale, allora ci sembra la Reggia di Versailles, credo, eh. Sì, certo. Cioè, comunque la cosa tecnica che le volevo chiedere è questa qui. Io, vedendo la partita di ieri sera, vedendo anche tutte le altre partite, anche magari in televisione della Juventus, ho visto che sì, gioca bene tutto, però francamente in questo momento stiamo dando il 110%. Ieri sera, a 10 minuti alla fine, non so se si poteva vedere in televisione, ma chi era lì lo vedeva. Quelli della Juventus erano tutti la bocca aperta per prendere ossigeno, avere la lingua di fuori, perché davvero non ce la facevano più. Se durava un altro quarto d'ora, probabilmente l'Udinese avrebbe anche pareggiato. E vedo che il Milan ha un punto in meno, però vince le partite. Attualmente ne ha 4, eh. Piano. Sì, ma dà la palla a questo benedetto Ibrahimovic, che andando al piccolo trotto, allora le partite le vincano tutte abbastanza facilmente fino adesso. Quindi secondo me alla fine, se arriviamo secondi, dobbiamo essere più che contenti, e io lo sarò. Ma lei è pessimista, sa che lei è pessimista? No, perché il Milan andando al piccolo trotto le vince tutte facilmente, mica tanto, perché con le squadre che stanno davanti il Milan ha infilato una serie di sconfitte, compresa quella con la Juventus, che lei si ricorderà benissimo. Dunque non è che sia così schiacciante la superiorità del Milan, che attualmente ne ha 4 di svantaggio, poi vediamo come va stasera, eccetera eccetera. è evidente che Ibrahimovic è un fattore, ma sto dicendo la più banale delle banalità. Ibrahimovic è un fattore, Ibrahimovic è un giocatore che sul fronte interno sposta gli equilibri da solo, soprattutto quando non si tratta di partite con le grandi. Però la Juventus è vero sta dando 110% ed è vero che non ha ancora affrontato un momento di crisi reale in questa stagione, non ha ancora perso e lo sappiamo benissimo, ha avuto dei mezzi passaggi a vuoto con dei pareggi evitabili, però non ha ancora vissuto un momento di difficoltà vera. Arriverà, credo di sì, ha le caratteristiche anche emotive per far fronte ad un momento di difficoltà, emotive e di organico, credo di sì anche in questo caso. Quindi, torno a ripetere, febbraio e marzo ci daranno l'esatta statura, l'esatta dimensione della Juventus, ci daranno l'esatta altezza, visto che siamo in questo campo, della casa tricolore che sta costruendo. Fabio da Brescia, buonasera. Sì, buonasera. Tanto per cominciare, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo parlare dell'intervista che Doni ha rilasciato. Volentieri. Credo che Doni abbia perso una grande occasione per votare il sacco completamente su quello che ha fatto. E certo che è così. Certo che è così. Ha detto, molto probabilmente non vuol toccare della gente che fosse un po' scomoda perché ha paura o per mille motivi suoi, però credo che abbia preso un po' per il fondo schiena tutta la gente di Bergamo che l'ha sempre mannato, soprattutto i bambini con lui andava a dire. Guardi, li ha presi per il culo per anni, e adesso lo sappiamo, non con questa intervista, lo sappiamo con quello che ha fatto, con i suoi comportamenti, con i suoi atteggiamenti, con quell'esultare alzandosi la testa, e poi ha detto ma era un gioco da ragazzi, va bene, però il gesto era quello, il simbolo era quello, vado con la testa alta, meno male che andava con la testa alta. Lui di certo l'esempio che si dà ai giovani sicuramente, però credo che comunque doveva quantomeno dire tutta la verità. Mi dispiace dirlo, però gente così va trattata a calci nel fondo schiena, sì. non con la bontà. Beh, ma cosa che credo avverrà, no? Quantomeno dal punto di vista giudiziario, perché mi sembra che la vicenda giudiziaria per lui non sia semplice, no? A me dà l'impressione di uno comunque incastrato, che non può ritrattare, cioè non può mentire ulteriormente, e che allora sceglie la strada della demagogia e di verità bizzarre come quelle di ma io mi sentivo in colpa per la retrocessione dell'Atalanta e allora mi venivano a dire in Serie B, volevo solo tornare in Serie A ma solo per il bene dell'Atalanta. Le scommesse le lasciamo stare? No, non lo so, questo discorso delle partite taroccate della truffa la lasciamo stare? Se vogliamo lasciarla stare, crediamo a Doni che dice soffrivo per l'Atalanta in Serie B, allora mi venivano a dire guarda quella partita lì la vinci, e io abbassavo la testa e a malincuore dicevo vabbè. C'è da riderci, ma c'è da piangere. Più che altro è andato a toccare una partita di 12 anni, mi pare, passate, che era già andata in prescrizione, era già stato assolto tutto. Quindi credo che il signor Doni è meglio che dica la verità e soprattutto la pianti di dire cazzate, scusate la parola, però io sono un po' indignato perché se devo andare allo stadio pago il biglietto, pago l'abbonamento e poi vedo queste cose qui, sinceramente resto basito e allibito. Ma sì, ma Fabio, ma come lei molti altri, il discorso è che Doni ha preso per i fondelli tutti, non con questa intervista ma con i suoi atteggiamenti che adesso possiamo leggere in maniera corretta, no? Alla luce di questa vicenda, quindi in sostanza non ha detto nulla se non una fila di banalità sul calcio malato, su tutte queste stupidaggini qui che grondano solo demagogia e null'altro. Quello che poteva essere il senso delle sue parole, quello che poteva essere la validità delle sue esternazioni non si è vista, perché non può venirmi a dire sì è vero, ho truffato ma per il bene dell'Atalanta, io non c'entro nulla con tutto il resto, il sistema è malato, il calcio è malato, tutte queste fesserie. Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Madrid, ciao Filippo. Buon pomeriggio. A lei, io prima di parlare dei soliti temi che pure sono interessanti, vorrei, prima di perderci nei meandri murigneschi, un tuo punto sulla Coppa d'Africa, che è il tuo pane quotidiano. Beh, è esattamente come me l'aspettavo. il livello non è un granché, ma non sarebbe stato un granché neanche con le grandi squadre. E invece abbiamo finalmente gente che c'ha fame, che ha voglia di mettersi in mostra, come appunto i due paesi ospiti, la Guinea Equatoriale e il Gabon, che hanno squadre modestissime, però non so, la Guinea Equatoriale fa fuori il Senegal con questi grandi attaccanti, no? Che giocano in Inghilterra e via dicendo, dopo che già sono stati fatti fuori Egitto, Nigeria, Camerun, Sudafrica. È un po' la rivincita dell'Africa, io la vedrei così. O di quelli che hanno voglia di rischiare le gambe, Filippo? Sì, la gente va lì in vacanza, insomma, si vede anche dall'atteggiamento di Drogba, che magari pensa anche: oddio, Torres adesso fa 3 gol, mi frega anche il posto. Questa è un po' la loro vita, è da un'altra parte, dai. Sì, però è un peccato, invece è meglio così. Ovviamente non sono grandissime partite, sono tanti errori, le difese fanno un po' ridere, i portieri ancora di più, però è il calcio africano. È inutile che cerchiamo di farlo diventare un simulacro del calcio europeo. A me mi piace, se c'ho tempo me lo guardo, poi voglio dire, non è che lo guardo perché chissà cosa scopro, però mai si può essere qualche giocatore interessante, c'è un impegno, c'è passione. Punto, questo è un po' così come la vedo, sì, io. Non vanno però oltre la passione storicamente, perché perché la nuova frontiera, in realtà ci siamo raccontati un sacco di cose sulla nuova frontiera che non esiste. No, allora il problema però è, per me è questo, sta negli allenatori, sta nella mancanza di una scuola calcio, di un sistema. Il giocatore africano ha 18 anni, che poi magari ne ha 25, però dice che ne ha 18, prende, se ne viene in Europa, o adesso va anche in Vietnam o in Cina, o si sono aperti milioni di mercati, e non c'è un campionato serio, non c'è una struttura. Gli allenatori che arrivano in Europa è gente che ha meno voglia dei campioni di cui parlavamo prima, per cui alla fine viene sfruttato e poco altro. È un peccato, però, perché poi li vediamo come questi giocatori che poi in Europa fanno bene. Però quando si torna giù non c'è proprio la struttura, non c'è il sistema. No, evidente. Senti, prima di fermarci per il traffico, poi parliamo di Mourinho, del Real che vola, di una settimana che è stata affatto banale, come capita spesso da quelle parti. Mi dici qualcosa, me la segnala Giorgio De Luca, di questa campagna che hai lanciato Guidetti in nazionale, ma che stai a dire? Allora, non so, abbiamo bisogno di un centravanti in nazionale o no? Sì. Questo lo chiedo più a te. Può essere utile? Dipende, perché qualcuno qualcuno dipende quanto è forte. È un ragazzo di 19 anni, sì. Svedese, però col nonno italiano, si chiama Guidetti, di proprietà del Manchester City, gioca nel Feyenoord, ha fatto, mi sembra, 14 gol in 13 partite. Tu mi dirai, sì, ma è l'olandese, non è il campionato. Però ci giocavano anche Van Basten e Van Nistelrooy, no? Lo stesso Ibra. Diciamo, è il nuovo Ibra, però ha un po' di sangue italiano. Se serve, magari si può fare uno squillo. Sì. Si va, gioca nell'Under 21 svedese, ed è una grandissima promessa, è la grande promessa del calcio svedese. E noi cosa c'entriamo? Andiamo lì e glielo freghiamo? Beh, insomma, dipende, se serve. Magari il nonno gli dice, no, come no, io in Italia mi piace. Ma abbiamo Balotelli? Certo. No. No, ma Balotelli va bene, abbiamo anche Rossi e Cassano se tornano. Rossi e Cassano. E più tutti gli altri. Pazzini. Certo, però non lo so, io dico, pensiamoci, tu dici pensiamoci, sì. Però dopo magari non ci serve, però diciamo che poi vedremo, però a 19 anni meglio pensarci adesso che mangiarsi il fegato dopo, tu dici. Insomma, stiamo parlando di un potenziale campione, poi magari diventa un signor nessuno, esce dall'Olanda e fa 3 gol al campionato, però se ne parla molto molto bene. Oggi è stata un po' la sua consacrazione, questa partita con l'Ajax, 4-2, insomma, 3 gol, ha tirato anche il rigore, 19 anni. Quindi pensiamoci per tempo e non arrabbiamoci dopo se invece lo avremo ignorato. Filippo, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico e subito dopo ti devo far dire qualcosa su questa settimana, no? Su Mourinho che spacca tutto e rompe ogni rapporto, rompe forse anche il contratto, ma questo si vedrà. Ma intanto viaggia verso il titolo, verso la Liga. pazzesco. Lippo Maria Ricci: non lo costringessero a giocare contro il Barcellona, per Mourinho sarebbe un trionfo assoluto, però lo costringono a giocare contro il Barcellona e allora diventa un problema. Esatto, questa è la chiave. La Liga è nel bolsillo, come dicono qua, in tasca. Sette punti. Dici? Sì, insomma, cioè la vedo dura, perché poi comunque Barcellona ha pochi giocatori, Messi vuole giocare sempre, è un po' stanco, se non segna lui gli altri fanno fatica, senza David Villa ovviamente hanno perso tanto, c'è un po' di appagamento, un po' di stanchezza fisica e mentale. Guardiola che esagera anche coi cambi, ieri sera un casino, io direi, userei questa parola, cioè, un cambio continuo di modulo, di giocatori spostati, non so, alla fine non ci capiamo niente, insomma. E, per cui sì, Mourinho secondo me la Liga la vince e questo potrebbe dargli una buonissima motivazione per andarsene via. Certo, a quel punto avrebbe la scialuppa di salvataggio su cui non esiterebbe a saltare, no? C'è anche la Champions, perché sì, se si scontra col Barcellona è un conto, ma se il Barcellona si scontra con qualcun altro e magari viene fatto fuori, Non si sa mai. Bayern Monaco Barcellona. Sì, sì, sì, sicuro. Sì. Può sperare nelle disgrazie blaugrana, non per propria mano, perché lì la vedo impossibile, sinceramente, sì, esatto, perché ormai c'è questa psicosi. Anche se si è avvicinato, perché quest'ultimo classico. Sì, ma dai, ma psicosi assoluta. Lo so, ma perché lui deve aspettare di essere contro il muro perché la sua squadra giochi bene. Allora uno gli dice: ma scusa, ma perché non giochi prima? La formazione del mercoledì, il primo mercoledì di Coppa, è inguardabile. Cioè non puoi rinunciare a Osil, a Kakà, adesso addirittura a Granero, cioè voglio dire, stanno giocando bene, se sei in Spagna giocatela, perché sai, noi tutti ripetiamo sempre sta manita, no? Che sembra tatuata sulla sua fronte, e lo che è così, e lo è. Però attenzione, il Madrid di manite ne l'ha già incassate, sì. E le ha anche date, e qua si supera. Ma un affronto troppo grande, Filippo, un affronto troppo grande. Per lui però, l'ha vissuta lui male, non il madridismo, capito? È questo che bisogna fare un distinguo. Sì. Il Real Madrid ha già perso 5-0. È già capitato, non è il primo della storia, insomma. Qui è così. Non è il primo affronto, ma per lui sì. Cioè, Lui non ha mai preso più di 3 gol. Ma sì, ma è qualcosa di insuperabile questo shock, e trasmette questo alla squadra, tanto che in ogni confronto, se ne giocassero anche 40, ne perderebbe 40 di vario spessore, in vario modo, eccetera. Ma perché così è? Filippo, ti ringrazio. A voi, un abbraccio. Ci sentiamo domenica. Grazie a Filippo Maria Ricci. Io chiudo con i miei amici ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Vi ricordo alle 20:30 l'appuntamento con il basket, con Palla Spicchi. Dario da Roma, buonasera. Buonasera a lei. Dica. Allora, dunque, premetto, da tifoso della Roma, neanche particolarmente competente, forse in questo senso, tecnicamente. Lei ha parlato prima di una Roma più forte di altre squadre nell'eventuale lotta per il terzo posto in campionato, fiducia che onestamente apprezzo, ma che in questo momento non ripongo nella Roma. Vedo una squadra ancora abbastanza vedo una squadra abbastanza carente ancora in alcune cose dell'organico, sia un attacco ancora, adesso l'assenza poi di Osvaldo si sente molto sicuramente, ma anche una difesa comunque ancora mal strutturata, ma vedo soprattutto una squadra scendere in campo e affrontare delle partite con una mentalità, una voglia, uno spirito in alcuni casi eccezionale, come è stato in alcune ultime partite, in alcune altre come quella con la Juventus, al di là che il fatto che fosse Coppa, non c'era proprio la squadra in campo. Secondo lei è una squadra ondivaga, è una squadra che non, mentre la Lazio secondo me ha meno qualità, se stiamo facendo questo tipo di parallelo, la Lazio ha meno qualità rispetto alla Roma, ha meno talento rispetto alla Roma, però è molto più solida, razionale, quadrata. La Roma è una squadra più ondivaga, che è anche molto più giovane in alcuni suoi interpreti, a cominciare dall'allenatore. Dunque ha questi limiti, lei ha ragione, ha questi limiti, ha questo peccato originale dell'essere una squadra comunque, per forza di cose, un po' bizzarra, un po' balzana, ma come talento è indiscutibile. Dunque io vedo vedo la Roma comunque competitiva per la corsa, deve crederci, però è competitiva per la corsa, quel terzo posto che non è poi così lontano. È chiaro, è una squadra che ha i suoi difetti, ha i suoi limiti, manca una punta, ed è vero, in questo momento di emergenza, tutto quello che volete, però ripenso al gol su punizione di Pjanić, cioè è una squadra che, di oggi, è una squadra che ha grandi risorse, la Roma, in un ambiente difficile come quello romano e con un allenatore che non ha certo grande esperienza, e questo è un fattore, questo conta, questo fa parte dell'essere un divago di questa squadra. Dennis, provincia di Milano, buonasera. Sì, salve. Io volevo innanzitutto dire grandissima Juventus, mi sembra di vedere la Juve degli anni d'oro, era ora, perché abbiamo sofferto un paio d'anni. E quindi non lei è d'accordo con Guidolin che alla vigilia della sfida con la Juventus ha detto mi ricorda la Juventus di Lippi? Beh, secondo me ci mancano ancora i giocatori. Anche secondo me. Perché anche sì, Matri, bravo quanto vogliamo, però ne sbaglia tanti. Ci vuole l'attaccante, secondo me, di razza, che come gliela dai a lui te la mette dentro, e cioè 9 volte su 10 te la butta dentro. Ma Matri si fa anche un mazzo così, però sì no, è di quantità, capito? Cioè Matri è sicuramente di quantità, però l'attaccante, quello serio, quello da Juventus internazionale, ancora ci manca. Tipo sai che non saprei, ce ne sono di bravi, però il problema è che bisogna vedere se sono un disposti. Tipo Ibra, lei dice? Ma ecco, ad esempio Ibrahimovic no, perché Ibrahimovic ha un modo di giocare che non è tanto, cioè a me vedere il giocatore che cammina in mezzo al campo non è che mi piace tanto, preferirei uno con un po' meno qualità tecnica, però che si fa, cioè che dà il 100%. Cioè un Matri con i piedi di Ibrahimovic? Sì, ecco. Uno che faccia, sì, che faccia ruolo di Matri, ma con maggiore pericolosità, con maggiore killer instinct sotto porta, ma... la cosa vera che lei ha detto è questa Juventus può ricordare quella di Lippi, può stuzzicare delle fantasie, però certamente mancano giocatori di livello internazionale come quella Juventus aveva, questo è indiscutibile. La Juventus manca, e anche in questa ragione probabilmente l'attaccante è in grado di forse risolvere da solo le partite, manca il colpo di genio davanti, manca il giocatore che sei sull'1-1 con il Cagliari, il Bologna, il Genoa, eccetera, eccetera, e ti risolve la partita pescando il jolly dal nulla. Un giocatore che ha queste caratteristiche è Vucinic, che è un giocatore che a me piace immensamente, che però non ho ancora visto ai livelli di creatività romani. Sta giocando una buona stagione, diciamo, da 6 più in pagella, però non l'ho ancora visto così incisivo e decisivo in questa Juventus. Giovanni, provincia di Macerata, buonasera. Sì, buonasera, salve. Dica. Senta, no, stavo parlando proprio di Mourinho. Quindi nasce spontaneamente, soprattutto a me che sono un interista, paragone con Ranieri, che come lei guarda, ricorda, Giovanni, mi spenga la radio, sennò davvero non la sento. Grazie. Dica? No, prego. No, Paragoni? Mi ricordo durante anche le schermaglie con Ranieri, quando era il tempo con Ranieri. Quindi preso in giro Ranieri, anche sbeffeggiato. Però adesso Ranieri è con noi, sta facendo bene, perché questo è il suo cercare un piazzamento. Sì, certo. Si sa che è un cavallo vincente, no? È stato sempre un piazzato tutta la sua carriera. Sì. Però, ma quindi questo, è l'allenatore per il futuro? Non è dell'allenatore, ma è di una dirigenza. Beh, che certo. Vuole fare nozze con i fichi secchi. Ma sì, ma questo è evidente, Giovanni. Non è che vuole fare nozze con i fichi secchi, la squadra è questa, è una squadra nella sua struttura, nella sua anima, sul viale del tramonto, e Ranieri sta facendo il massimo, ma come mi aspettavo, esattamente come mi aspettavo, nel gestire nel miglior modo possibile questo viale del tramonto, che può anche concludersi, ripeto, con un terzo posto che non è poi così lontano e che deve essere l'obiettivo realistico dell'Inter in questa stagione. Ci fermiamo qui? Sì, aggiorniamo la seduta alle 8:30, torniamo per raccontarvi tutto sulla giornata di basket. Giorgio Luca in redazione, Filippo Aureggi in regia, buona serata. A tempo di sport.